Pronto? Antò? Chi è? Chi parla? David Parenzo. Oh, ciao, ciao David, come stai? Rimortaccia, bene, bene, sono qui con Giuseppe, volevamo farti un'intervistina al volo. Quando? Quando adesso, vuoi? Adesso, quando adesso. Vuoi? Adesso non si può perché sto aspettando che arrivano quelli del TG2. No, ma due secondi. Vabbè, facciamo due minuti adesso, quando arriva chiudi, chi se ne frega. Poi no, no, no, mi sto per te, guarda, prova a richiamare fra 10 minuti eventualmente. Antò, quando c'è l'intervista? Perché sta cosa ha visto di Tajani. Ma come sto vestito, prova a richiamare fra 10 minuti. Ma che stai nudo in casa, scusa, non ho capito. Ma fatta i cazzi tu, no, va culo. Io non lo so. Ti pare che uno stia... La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Se durante un governo di centrodestra noi avessimo dato 30.000 euro, non lo so, a chi vogliamo, Mario Giordano, per fare 10 minuti di monologo al Festival di Sanremo, cioè in un contenitore non politico, lei sa cosa sarebbe accaduto in Italia? Arrivavano i caschi blu dell'ONU, quelli di Di Maio che voleva fare venire prima lì. Mario Giordano. E trovo che chi ha fatto guerra allo Stato perché lo voleva cancellare, che oggi prenda 780 euro al mese, lo trovo uno scandalo. Donna! Scusi, Etro che è lì però, di fronte Etro, è qui può davanti, benissimo no? Andare a lavorare, ma perché lo dobbiamo mantenere noi italiani che ci voleva fare buttare le bombe, sparare, ammazzare, sovvertire lo Stato e i miei soldi? Vanno a quel signore che ancora oggi si permette sui social di scrivere cose irripetibili nei confronti di donne. Ma una persona così deve scomparire. Il problema è che comunque questo Stato, di cui fa parte anche questa cosiddetta signora davanti a me, no, cosiddetta, cosiddetta lo dice sua sorella. Si è educato, glielo ripeto. Si è educato, visto che lei è mantenuto anche con i miei soldi. Cioè diciamo che lo Stato rispetto alle VR è un altro mondo, è proprio essendo Stato rispetto a voi. Ecco, rispetto a voi si distingue lo Stato da quello che eravate voi. Vi dico solo questo, ed è tutta verità, eh. Max, quando lo metti con 10 uomini è a cazzo duro. Quando lo metti con 3 super fighe è a cazzo moscio. Adesso a voi pensare com'è Max Felicitas e chi è Max Felicitas. Sono convinto di una cosa, che Parenzo ci prende per il culo, che Parenzo fa molto di più di te, che Chiava, che è un grandissimo trasgressivo e perverso, che gli piace leccare il culo, ma pure cosa quelli dici? Di ma sopra, perché, ma gli cosa piace leccare il culo, ma non si peli, questa è la verità. Non si permetta. Lo voglio fare! Lo voglio fare! Ehi hey, ragazzi, sono io, eccomi qua. D'accordo? Cosa? La denuncia? Dai, denuncia signor immediata. Siffredi. Ma no, ma denuncia immediata. Sì, quel ricordo, passaggio clamoroso. Ripescare questo audio. Hai già preparato audio. Le carte? Hai no, già no, preparato c'è già le attivo carte? L'ufficio legale, ma che è sempre attivo, che dalle 18.34 l'ufficio legale si mette le cuffie. Ma come funziona la storia? Cioè, funziona dalle 18.34 l'ufficio qualunque legale. Qualunque cosa accada, l'ufficio legale Parenzo & Co. si siede nel proprio ufficio, si mette le cuffie, si collega, prende, parola guarda, per il brogliaccio, no, prende una penna. No, prende una penna, quella che ho in mano io, prende un foglio bianco, anzi una risma di fogli bianchi, perché qui i reati vengono commessi proprio, no? Senza soluzione di continuità. Sì, ogni secondo, una risma di carta bianca e intanto vengono annotati, cioè 18:38, insultato Parenzo da Siffredi che sostiene che lei col buco del culo. Poi 18 e viene stilato già in 4 minuti. minuti mi segnalano sono stati commessi 4 reati. Poi tu decidi ovviamente se portare tutto in tribunale poi, oppure no. Poi io applico quella che si chiama la discrezionalità dell'obbligatorietà dell'azione penale, quella che tecnicamente sì, viene chiamata chiaro, così chiaro, chiarissimo. Preparo il fascicolo che sì, è già pronto sì, viene battuto sì, a macchina da una ragazza che si occupa sì, di questo dell'ufficio legale, e poi legale, tu decidi chi portare. Poi viene selezionato il giorno dopo, la mattina dopo c'è il debrief della sì, puntata precedente in cui vengono selezionati i capi di imputazione. Questo è il lavoro dell'ufficio legale Parenzo Enco. La corte oggi lo portiamo concorso, in tribunale perché ha ripescato proditoriamente un audio dall'archivio, l'ha rimesso in onda, ha ricreato un danno inimmaginabile. Almeno la 5.000 si tira fuori la 5.000 euro. Ma gli portiamo via qualunque cosa, anche quel pizzetto che ha con i capelli, lo facciamo radere a zero, gli portiamo bene, via ragazzi, tutto. Allora, la signora Meloni, l'avete già ascoltata nella copertina del signor Ragazzi. Se la Meloni ha commesso un autogol, non può dire che Mario Giordano è di destra. Allora, io dico una cosa, questo che fra poco sentirete, vi faccio riascoltare questo audio della Meloni e un altro ancora. Ha perfettamente ragione, non fosse altro perché l'ho detto io la settimana scorsa, ma non ho preso Mario Giordano come esempio, ho preso la maglie, perché Rula Gebreal, maglie, ho fatto questo paragone, qualcuno di voi sicuramente lo ricorderà. Cioè, cosa ho detto per chi non ascoltasse la Zanzara in maniera, come dire, costante, cosa che fra poco sarà reato? Io cosa ho detto? Ho detto che se una Rai, diciamo, di centrodestra avesse messo sul palco di Sanremo la signora Maria Giovanna Maglie a fare un monologo su qualsivoglia argomento, sarebbe successo un casino. Eppure la figura della signora Maglie e la figura della signora Gebreal hanno esperienze radicalmente diverse, quella è lì per parlare delle donne e quindi fa è il suo speech. Comunque anche lei è una militante, a me non interessa, chi posso dirti, non me ne frega tecnicamente di questa polemica, non me ne frega nulla, cioè mi interessa paradossalmente di più del gatto di Felte, guarda che cosa arrivo a dirti, cioè tanto non mi interessa della vicenda, tanto mi interessa di più il gatto di Felti. Tu sai che stima ho io di Felti e del suo gatto. Allora, la Meloni, ecco. Mario Giordano e Sanremo con i caschi blu, vai. Se durante un governo di centrodestra noi avessimo dato 30.000 euro, chi vogliamo? Mario Giordano, per fare 10 minuti di monologo al Festival di Sanremo, cioè in un contenitore non politico, lei sa cosa sarebbe accaduto in Italia? Arrivavano i caschi blu dell'ONU, quelli di Di Maio che voleva fare venire prima in Italia. Ma questa, ragazzi, è la realtà dei fatti, è la realtà dei fatti. Mi fanno giustamente notare un'altra cosa. Non potete presentare sul palco di Sanremo una persona come se fosse terza. No, è una persona, ma per me deve andare. È terza. Ma deve andarci è quattro. Terza. La sua esperienza quattro è terza. Lune, Gebreale, Mario 50. Giordano ha tutti i martedì sera per fare i suoi interventi televisivi. Ma dai, ma non c'entra un cazzo. È diverso. Ma chi è che te lo fa? Chi è quel coglione che ti fa notare questa cosa? È un esempio. È un coglione in questo caso, la corte. No, ha perfettamente ragione. Non c'entra nulla. Lui ha ragione, è vero, un è così. Giornalista militante e una giornalista militante. Ma andiamo avanti. Ma perché giornalista militante la Rula? Io non so che cosa voti la Rula Gebreal. Di dire che non è una giornalista militante. Ma dillo, ma non so Dio, che per cosa milita. Dio. Per i diritti umani? Perché cosa milita? Per i diritti umani? E Mario Giordano, perché cosa milita? Lui ti direbbe lì. Perché cosa? Per milita. Bibiano. Allora, solo la Gebreal milita per i diritti umani. Secondo me la platea di Sanremo è giusto che si occupi di diritti umani. Allora, vai. Ma dopodiché non me ne frega incredibile, niente. Incredibile. Va inserito nel contesto del festival. Se Rula Gebreal, che oltretutto è una donna bellissima, va lì a presentare il festival, cioè va lì a dire "Di ossa e le ali ti lascerò", suona l'orchestra, io non ho nulla da dire. Ma cosa diversa è che Rula Gebreal, che è una persona politicamente impegnata, a spese dei contribuenti e super pagata, vada a fare un monologo senza contraddittorio di mezz'ora dentro al Festival di Sanremo, perché il Festival di Sanremo non è il contesto, se posso dire. Però questo adesso l'ultima parte mi permetto di dissentire dalla signora Meloni, perché i monologhi sono per forza senza contraddittorio, altrimenti non sarebbero monologhi. La seconda cosa, sinceri, ha ragione. Che ognuno poi decide come organizzare il suo festival. Se è previsto che ci siano dei monologhi, ci saranno dei monologhi. Ma infatti l'unica critica da fare è la solita: se avessero scelto Giordano, la maglie, ma perché Borgonovo, Ben Pietro, ma perché Borgonovo deve andare al festival? Festival di Sanremo. Ma perché la Gioia perché ci deve andare? Ma non si perché capisce Borgonovo. Borgonovo al Festival di Sanremo. Allora diciamo uccidi che va un misto. Ma di... uccidi il festival, fallo, uccidilo. Fallo arrivare al 2%, va benissimo. Manda Borgonovo al Festival di Sanremo. Benissimo, uccidi il festival. Evviva! È come quello, ma sì, è come quello che porti a una festa e la festa fermi, diventa immediatamente vuota. Meluzzi, Meluzzi, fermi tutti. Oh mio Dio. Meluzzi. No, alle 18:44 aspetta, così a freddo no. A freddo no. Mi devo scaldare un po', no, a freddo. Dice che come c'è far un ginnastica. Piano, dice ma che no, c'è ma un piano di sostituzione elettrica per portare un milione di africani chi in Italia. Chi ha detto questo? No, Meluzzi, aspetta. Aspetta. No, ma non così a freddo, aspetta, mi sento male. A freddo no, devo scaldarsi prima. Ci giunge notizia che Domenico Siniscalco, che peraltro è stato un mio compagno di liceo, liceo Cri di Torino, e che ha preso il posto di Tremonti dopo la caduta del suo governo, che e che è stato premiato, essendo per molti anni vicepresidente della Morgan Stanley, una di queste grandi banche d'affari che controlla il mondo, in una riunione di esperti ha deciso che devono venire alcuni milioni di africani in Italia e in Europa per completare il piano di sostituzione etnica. La Morgan Stanley avrebbe deciso di portare milioni, no, milioni di africani. Neanche, no, ma magari è vero. Non posso neanche mandarlo a fare in culo perché è talmente un'idiozia quella che dice. È talmente un'idiozia. Aspetta, sentiamo, sentiamo che continua. Aspetta. Quello che c'è un piano magari. Che rovina sai, la ci festa, può essere un piano. Rovina la festa, portala a una festa. Per esempio, Meluzzi a Sanremo. Tutti. Meluzzi sul palco di Sanremo. Perché no? Bravo, perché bravo. No? Perché sì, no? Distruggi tutto. Distruggi una delle poche cose che funzionano. Distruggi una delle poche cose che funzionano. Differenza c'è benissimo, tra un comizio della Gebreale come portarlo, e un comizio di come Meluzzi. Portarlo a una festa, la festa immediatamente Capezzone a Sanremo, perché Capezzone a Sanremo. Ma che cos'è? Capezzone a Sanremo. Il Rocky Horror Picture Show, ma che roba è? Il Festival degli Orrori, che roba è? Allora è evidente che si devono aprire immediatamente i confini per dare lavoro anche sotto costo ad una massa di diseredati che altererà in maniera completa e definitiva il panorama sociale, economico, ambientale, religioso, culturale, ma anche lavorativo e anche sindacale dei diritti in Italia. È chiaro qual è il piano, è chiaro qual è qual il è? Piano delle banche, è chiaro qual è il piano della grande finanza internazionale, è chiaro quali sono gli ascari e gli strateghi di questa sommersione coloniale. Ma non è detto, caro Domenico Siniscalco, ancora che noi ci stiamo, anzi credo che gli italiani non ci staranno. No. Però io propongo, siccome dove delira, secondo me pari sono Meluzzi a Sanremo invece della, oppure se c'è la Gebreal allora portiamo Meluzzi. Ma non bestemmiare. Ma ragazzi, ma opinione per opinione, qual è il problema? Ma quale opinione? Questo non è un'opinione, è un delirio, non è un'opinione questa. Un conto è parlare dei diritti umani, un conto è delirare. David, fammi da sugar daddy. Promo 24. Appuntamento alla Pipeline and Gas Expo 2020, The Utility Construction Show, l'unica manifestazione fieristica in Europa interamente dedicata ai comparti del midstream e delle reti distributive di gas, oil and water. Attrezzature, strumentazioni e prodotti per la costruzione, il monitoraggio e la manutenzione delle pipelines e tecnologie dedicate alla gestione di gasdotti, oleodotti e acquedotti. Alla Pipeline and Gas Expo 2020 sono anche previsti convegni con relatori di fama internazionale dedicati al futuro del mercato del gas e del biogas e alle tecnologie del LNG anche nel comparto marittimo e dell'autotrazione. A Piacenza Expo dal 20 al 22 maggio 2020. Per info pgexpo.eu. La Zanzara. Io non so se la Juve mi ha cambiato. Mia moglie mi dice sono sempre la stessa testa di cazzo di prima. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Silenzio la vecchia! Cruciani, quanto sei sexy. Mi mandi una foto delle tue rotule. Io impazzisco per le rotule. Secondo me le tue sono spigolose come piace a me. Dai su, in attesa di incontrarmi, fammi questo regalo. Mandami una foto delle tue rotule, così mi tocco guardando quelle. Che degrado. Che degrado, ragazzi. Che degrado, che degrado. Che gente, che degrado. Ma cosa, quale gente? Che di degrado, che cosa? Che ma gente di che? Piacerebbe chiedere per chi vota questa signora. Ma questa qua è una MILF, una signora MILF, di cui sconosco completamente le fattezze, di cui sconosco tutto, di cui sconosco tutto. La vecchia allupata col gusto. Che manda dei bei messaggi, dei bei messaggi in cui si arrapa probabilmente con le piacciono le rotule degli uomini. Qual è il problema? Cioè, le piacciono le rotule degli uomini. Ho scoperto recentemente, devi sapere, che uno dei nuovi filoni del cinema hard, del porno, che riflette anche, se vuoi, la realtà della vita umana, della vita di tutti i giorni, cioè della vita reale, scusa, non la vita umana, la vita umana, per forza, cioè della vita di tutti i giorni, cioè il nuovo filone, per esempio, tirano molto i film con le vecchie. I film con le vecchie, beh, mi hanno detto dei produttori che vanno moltissimo i film con le over, i film con le anziane, e anzi le anziane sono tra le più ricercate nell'underground, nel sottobosco del cinema porno, che riflette anche i gusti della società. Ormai le scene dove ci sono le trombate così ormai non vanno più quelle normali, diciamo, no? A meno che non siano attrici nuove, Rocco, eccetera. Al di là di questo, vanno moltissimo le vecchie. Ma da chi? Le vanno vecchie, dove? Ma cosa vuol dire? Ma dove vanno? Vanno nel sottobosco, vanno assolutamente. Una porcheria inaudita. Comunque, ragazzi, Berlusconi resta sempre il number one, eh. Resta sempre the number one. Oggi è uscito fuori dal processo assurdo il Rubiter, come sai. Le ragazze lo cavalcavano a turno in una stanza buia. Le ragazze lo cavalcavano a turno in una stanza. Ma chiederai i danni Berlusconi allora alle ragazze? Ma ragazzi, ma è sempre il number one assolutamente. Cioè si faceva cavalcare, secondo alcune testimonianze, ovviamente, a turno, altro che galera, condanne. Ma questo, cioè, ma questo gli va dato una medaglia. A turno uno, capito, della sua età si faceva cavalcare in una stanza buia da alcune delle donne. Io non ci credo che sia avvenuto proprio questo, perché sai, comunque a quell'età qualche problema ce l'hai, Per carità. Qualche problema ce l'hai. Le sardine, ragazzi, io non ce la faccio più. Ancora le sardine, non ce la faccio. Io non li sopporto questi qua. Ma io non capisco. No, non li sopporto questi qua. Non li sopporto. No, ma non li sopporto. Non li sopporto. Te la vedi con le sardine e non metti la stessa veemenza nei razzisti. Senti questo Santuzzo, San Cazzo, San Toro, San Minchia, come si chiama questo qua che va sempre ospite senza dire mai un cazzo? Va sempre ospite in tutte le trasmissioni perché evidentemente c'è fame di gente nuova, di volti nuovi anche in televisione. È solo marketing. Ma marketing rappresentano qualcosa. Hanno portato in piazza milioni di persone. Ma che milioni di persone? Ma dove l'hai visto? In tutta Italia, Scusami, ma che fai film conto, hai visto? 50.000 a Bologna, senti, poi c'è stato tutte le diverse tappe, ma saranno arrivati a un milione Santuzzo, in tutta Italia senti, o no? Senti le ultime di Santuzzo, dice che ci sarà la fase 3 delle sardine, prima dice che ci sarà la fase 3, ma perché c'è stata una fase 1 e la fase 2? C'è stata forse la fase 1 e la fase 2? Nel dettaglio non ho seguito tutte le fasi, poi dice però un'altra cosa, aspetta. Dobbiamo ancora capire che cosa significa fare politica in senso stretto, quindi dobbiamo prima conoscerci noi, e anche il PD secondo me deve ancora capire come presentarsi in un processo di ricostruzione di questo tipo. Hai capito qualcosa di questa supercazzola? Sì, ho capito, certo. Ci dobbiamo conoscere noi. Devono conoscere noi, perché se è un movimento nato spontaneamente in rete. Poi te la prendi con lui. Ma che vuol dire ci dobbiamo conoscere noi? Tutti i giovedì e te la prendi con lui. Vai lì a modificare ogni giovedì a dritto e storto lì, come si chiama? Dritto e storto, dritto. Ma cosa c'entra? Dritto e spostato. Tutti i giovedì vai a dritto e spostato a fare la marchetta televisiva e critichi. No, veramente a dire la mia opinione, basta. A fare la marchetta televisiva. Comunque, ragazzi, e critichi il povero Santori che va in televisione gratis. Posso dirti una cosa? Che vi siete fatti prendere per il culo tutti quanti da questa vicenda di Gwyneth Paltrow, che dice che ha messo in vendita una candela, se non sbaglio, dicendo che ha il sapore della sua vagina. Ma tu pensa che presa per il culo colossale. Io non mi sarei mai... Tutto il fine settimana sono stato invaso da messaggi in cui mi dico: guarda questa cosa qui che divertente. Ma quale divertente? Il profumo. Ancora pensate che ci sia una candela al profumo di vagina? Ma al profumo magari, di figa? Magari ma veramente Gotardo, la gente Gotardo, magari certo. Ma sì, veramente Gotardo, vi siete fatti prendere per il culo chi ha comprato malatti, questa ragazzi. Cosa da questa puttanata di Gwyneth Paltrow? Giustamente la piglia per il culo pure Ruggero dei Timidi. Ti faccio sentire quel Ruggerone dei Timidi. Ce l'abbiamo sta cosa di Ruggerone dei Timidi? Fatemi sentire Ruggerone dei Timidi, ce l'abbiamo? L'abbiamo scaricato Ruggerone? Non l'abbiamo scaricato, benissimo. Ruggerone c'è. C'è o non c'è Ruggerone che dice le palle dello scroto, l'odore delle palle del mio scroto? Vai. Addirittura. Cosa? Sì. Gwyneth Paltrow ha creato una candela al profumo di vagina. La sua? Noi di Produzioni Timide non possiamo rimanere indietro. dai laboratori timidi, le candele che accenderanno le tue notti romantiche. Amore, passione, sudore. This smells like my scroto. Le palle profumate di Ruggero dei Timidi. Signor Ruggero, sempre un... sempre sul pezzo, signor Ruggero, sempre, sempre attento, sul pezzo, sempre sul pezzo. Alessio, provincia di Lucca, vai, Alessio, provincia di Lucca, vai. Pronto, buonasera. Dimmi, dimmi, Alessio, dimmi. Io vorrei parlare un attimo con il signor Parenzo. Non so se c'è. Sì. Aspetti, vediamo se c'è. Non, qua, non so qua, se c'è. Dottore, dottore, telefono. C'è signora Poveletta che vuole parlare sì, con lei. Parenzo, no, caro Parenzo. C'è povera disgraziata che vuole parlare con dottore. Sì, sì, caro Parenzo. Sì, ma questo caro, qua è un uomo, è un maschio. C'è povero disgraziato. Sì, c'è allora, ascolta. C'è povero disgraziato che chiama l'adio. Dottore, venga, dottore. Sì, eccomi Alessio, buongiorno. Sì, sì, sì. Eccomi, scusa. Buonasera, ascolta, buonasera, ascolta Parenzo, io sono contro di te. Perché praticamente. Perché le passo la domestica, le ripasso la domestica. Dottore, non può parlare ora con miserabile. Ti difendi le sardine, ti difendi le sardine, ti difendi l'immigrazione clandestina. No, clandestina sì. No, non clandestina. Ma come mai. No? Sì, mai. Sì, mai. Sì, perché voi di sinistra. Perché nessuno è di sinistra, non è di sinistra. Sì, nessuno sì, è clandestino. Sì, voi di sinistra, no, te Parenzo. Io Giuseppe ti ammiro, ti stimo, io ce l'ho con Parenzo. Sì, interessante, lo ridica questo. Io non ho capito bene, scusa Alessio, poi ti risentiamo dopo. Non ho capito bene se tu sei femmina o maschio, perché c'è una voce un po' strana, però per carità va benissimo. Sì, me lo dicono tutti, ma io sono maschio. Beh, io sei sono maschio sicuro, comprovato. Sì, sì, no, sì, ma sì. Perché? Ognuno me l'ho già detto anche l'altra volta, ti ricordi? Ognuno ha la sua voce, tu hai una voce da come dire, molto effeminata, ma va benissimo, non, noi non discriminiamo nessuno, anzi, per carità non sia anzi. Mai. Hai una voce, come si direbbe, un po' frocia, ma lo dico in senso tenero, teneramente e dolcemente. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. È considerato uno dei migliori film dell'anno. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Candidato a 6 premi BAFTA. Non sei un nazista, sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Jojo Rabbit, dal 16 gennaio al cinema. Imprenditore, progetti per il nuovo anno? Realizzali, i soldi te li dà Credimi. Fino a 2 milioni in 5 anni senza garanzie. 5.000 imprenditori lo hanno già fatto. Tu cosa aspetti? Vai su credimi.com. Messaggio promozionale, fogli informativi su credimi.com. Biennale, grandiosa, completa. È Fiera Agricola 2020. Da mercoledì 29 gennaio a sabato 1 febbraio, tutte le innovazioni in agricoltura, zootecnia, viticoltura e agroenergie a Verona per tracciare le linee del futuro. Aree demo macchinari, mostre zootecniche internazionali e la nuova rassegna nazionale avicoltura. Fiera Agricola a Verona Fiere dal 29 gennaio al 1 febbraio. Biglietti e programma fieragricola.it. A casa Rovazzi tutti super connessi con la superfibra Wind. Lo sentite? Questo rumore è Paolo che scarica un film. In un attimo. Questo è Dani che gioca ai videogame. Senza sosta. E questa è Marta, felice perché si scarica un brano dietro l'altro. Scegli la superfibra di Wind a €25,99 al mese. Stop! Ho detto €22,99 al mese. €22,99. Dai, dai, rifacciamola. Corri nei negozi Wind, chiama al 159. La promozione è valida solo fino al 26 gennaio. Verifica copertura, limitazioni e condizioni su wind.it. Benvenuti nel simulatore di viaggio F24. Elaborazione dello scenario desiderato. Per fortuna il futuro è più avventuroso di come lo avevano disegnato. Range Rover Velar, oggi tua da €550 al mese con Land Rover Leasing, anche per privati. TAN 395, TAG 465, salvo approvazione della banca, info su landrover.it. Nel 2002 mi sono diplomato. Nel 2006 ho aperto un bar. Nel 2010 mi sono sposato. Nel 2011 è nata mia figlia. Nel 2015 sono stato arrestato per omicidio. Nel 2016 sono stato condannato a 30 anni. Nel 2018 sono stato assolto con formula piena. Troppo spesso consideriamo mostro un innocente. Il Riformista è l'unico giornale che combatte ogni giorno contro manette facili e giustizialismo. Il Riformista, il quotidiano uguale a nessuno. La Zanzara. Ma io penso che vorrei essere il padre di questa sì. ragazzina. Ah, bene. Vorrei che fosse mia figlia, beh, così la prenderei a sberle. No, no, no, no, no, no, no. Right here. Right now. Greta Thunberg. Greta Thunberg. Sono un animalista, animalier, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto il koala prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Io penso che vorrei essere il padre di questa ragazzina. Ah, bene. Vorrei bene. Che fosse mia figlia, bene. Così la prenderei a sberle. No. Ce la posso fare, meglio di mio padre. Io ce la posso fare. Greta Thunberg. La mia razza si estingue. Ce la posso fare. Posso fare meglio di mio padre, io ce la posso fare. Greta Thunberg, la mia razza si estingue. Greta Thunberg, la mia razza si estingue. Greta Thunberg, quanta gente che spinge. Greta Thunberg, la mia gola si stringe. Greta Thunberg, quanta gente che spinge. Godo come un riccio, godo, godo come un riccio. Eccoci. Hey! Eccola qua. Eccola. Saluta un po' sta manica dei froci. Dì che sono quattro froci questi. Siete quattro froci? Eccoli, ma venite a trovarla sta ragazza, ma no? Venite a trovarmi, no? Che grappolo dei froci. Porti devono rimanere aperti. Provate a entrare in un porto senza autorizzazione della capitaneria di porto. È come prendere un aereo senza avere la carta d'imbarco e senza passare i security check. Ma mica, qui veramente si sta arrivando all'assurdo del patetico proprio. Questi psicofascisti anti-Salvini sono disperati. Sapete quante persone tentarono di fuggire nascosti nei carrelli degli aerei dalla Germania Est al blocco comunista verso la Germania Ovest? Solo che all'epoca mettevano in cattiva luce il Partito Comunista, allora non erano chiamati profughi, poveretti che scappano, erano chiamati semplicemente traditori, e perché dicevano che non si doveva scappare dal paradiso. Allora, caro Parenzo, dimmi te se non ho ragione almeno una volta. Se almeno una volta non mi puoi dare ragione, dipende, lascia perdere gli ascoltatori. Sì, gli ascoltatori dicono la loro. So che sei molto perplesso su questi ultimi interventi. So che sei molto perplesso su questi ultimi interventi. Ma quale interventi? Roba da delirio, da neurodeliri. Ma dai, che su. Neurodeliri? Cioè, quelli che scappavano dalla Russia, da Berlino Est a Berlino Ovest, chiaramente andavano a cercare verso la libertà. Quindi che discorsi stupidi fa quello? Allora, vengo ad apprendere che un tale che si chiama Carlo Crespi, specie di jumper, sì. si è buttato con una corda, che poi a un certo punto fa il jumper, si è buttato con una corda, sì. Da un grattacielo, da una certa altezza, sì, da 140 metri in via Melchiore Gioia qui a Milano. È vero, e fin qui va così, bene, ragazzi, così, ognuno fa il cazzo che vuole, dice. Però senti questa cosa, salto da 140 metri per i migranti. Per i migranti. Ma non è che il migrante. Aspetta, non è che il migrante non cambia la vita, però se lui salta, non credo. Un per grido dedicato a queste persone. Va bene. Ho tutto realizzato due bandiere unendo le coperte termiche. Bellissimo. Quelle argentate e dorate che vengono usate durante i soccorsi. Un grido dedicato a queste persone. Vabbè, una performance è un. Ragazzi, come ma dire, secondo te? Una performance. Ai migranti in mare, adesso con tutto il rispetto, no, per così no. Interessa no, questa no. performance? Ha cambiato le loro sorti? No, la gente si è mobilitata? No, dai, può sensibilizzare su. Il nostro. Cioè, uno sentire. Si butta nel vuoto per i migranti. Poi dice pure per i migranti. No, si butta nel vuoto con una corda, l'ho fatto per i migranti. Adesso l'ha fatto per i migranti, non lo so. Però sensibilizza. Ma non se ne può più di queste cazzo. È un gesto così. Tu no, sei in clamoroso. Difficoltà a giustificare ma queste non me ne robe. Allora, se uno si vuole buttare da un palazzo stasera con una corda. Stasera sei un po' feltri, però stasera no, non me ne frega niente no, di una cosa, però non me ne frega dire, niente mi stai ponendo dei quesiti. siti. Se uno si butta con una corda da un palazzo, cioè, non è che fai c'è solo il jumper, generale Haftar, però, come te. No, cioè... ma perché c'è ad esempio il vertice alla casa, alla Royal Family, che si è appena conclusa. Quella non mi parlare della Royal Family, non mi parlare della famiglia storia. Reale, perché quella... a me non mi frega un cazzo. Ma ti pare possibile? I due papi. Ma ti pare possibile? È una cosa clamorosa. Ma un che reale me ne frega i due fa la secessione dalla regina. Ma facessero il cazzo che vogliono. Ma non si è mai visto, non mi interessa. Mondo, no? Non mi... Un reale che rifiuta, che fa la secessione. Ma va benissimo, andassero in Canada a fare in culo. Ma che cosa ce ne frega a noi? Qui in Italia delle sorti di due stronzi che vanno in Canada. Ma chi se ne frega? Attacca l'Inghilterra. Ma che scomparisse il reale istituzione sole degli United Kingdom, l'ultima ma chi se ne frega? Ma ti pare normale che la regina, ho letto solo dai titoli, ti pare normale che la regina debba concedere la possibilità di un'altra vita senza appannaggio reale, senza i soldi? Questo fa benissimo, senza i soldi, per carità. Però, amico mio, ma ti pare una cosa normale? No, ma anche perché lo pagano i contribuenti inglesi. Ma che medioevo è? Ma che medioevo è? È una tradizione. La regina, la casa reale inglese, a differenza dei nostri straccioni di re, dei nostri straccioni della nostra casa reale, che appoggiarono il fascismo e non fecero nulla con quel nano che scappò via a gambe levate, peraltro, la famiglia reale inglese è una roba seria. Nano, è una roba seria. Il non nano, è il nano lì, come si chiamava lì il nano? Come si chiamava lì? Mi ricordo. Hai fatto anche scienze della politica. Come si chiamava lì il nano? Mi ricordo quello che scappò. Come si chiamava? Vittorio Emanuele. Comunque, ragazzi, ma dai, scusa, sì. Vittorio Emanuele III, il nano lì, il nano che scappò a gambe levate. Via, subito, appena c'era il pericolo, il re, la monarchia italiana. Via, ma chi se ne scappato a gambe levate, tadan, via. Non solo ha fatto. Ma non stai solo, offendendo i Savoia. Non solo fece fare ma a Mussolini quello i che Savoia. Cazzo, offendendo. Ma stai offendendo la memoria dei Savoia. A dai, casa mia su. Si cantavano le canzoni. Quelle che diceva a morte la casa Savoia. Ti ricordi? Bellissima era quella. Ma a parte morte, questo, io sono repubblicano, non sono mai stato monarchico. Da Milano, dai. Ma se parliamo invece della monarchia casa mia, inglese. Mio nonno, per esempio, era molto monarchico. Ma posso dirti la verità. Ma mio non nonno, c'è mio, ma non c'era dubbio. Mio padre, no. C'era dubbio. A parte mia madre era molto monarchico. Vedi? Vabbè, era monarchico. Era repubblicano, sarebbe stato repubblicano. Comunque, quel nano, sciaboletta lì, ha preso ed è scappato via. Vabbè. Se n'è andato. Lucia da Milano, vai. Lasciando la patria in blaghe di tela. La patria, onore. Onore un cazzo. Preso, scappato via. Sentiamo Lucia, dai. Onore. Ciao. Dimmi tutto, Lucia, che mi vuoi raccontare? Allora, volevo rendere noto che è possibile avere un matrimonio senza coito. Bellissima questa cosa, scusa, questa è una storia straordinaria. Allora, è possibile lei avere può un matrimonio impugnare dalla Sacra Rotta, comunque sì, la potrebbe farlo impugnare dalla Sacra Rotta, ma non so se si è sposata in chiesa, però cioè, no, non so. In chiesa allora no, può farlo impugnare anche dalle leggi italiane ma no, non è vero, cioè non sì? credo assolutamente, cioè si può far annullare così senza divorzio, senza divorzio, senza separazione. Non voglio annullarlo. Allora, no, faccia quello che vuole, perché ci chiamo. Aspetta, no, però Lucia, voglio capire una cosa. Scusa, allora, tu praticamente stai dicendo che sei sposata e hai un matrimonio, cosiddetto matrimonio bianco, si direbbe una volta. Cioè, non hai mai scopato con tuo marito? Due volte. Ah, due volte, dunque, non è proprio bianco. Quanti anni? Due anni di matrimonio, ma scopato, cioè con penetrazione oppure semplicemente no, con penetrazione? Con penetrazione due volte. E perché ha deciso di chiamare la Zanzara? No, scusa. Perché per raccontare questa cosa qua, fammela raccontare. Lei alle elezioni. Scusami, Lucia, non ho capito una cosa. Allora, e tu come fai? Cioè, di chi è il bisogno? Lui non ha bisogno, tu non hai bisogno. Come funziona allora, il vostro rapporto? Io non so lui che problema abbia, però lui non mi ha mai cercato, mai una volta da quando ci conosciamo. Mm-hmm. Quando eravamo fidanzati, ero io che cercavo di avere un approccio con lui e lui ci stava. No? Lei è molto ricca, signora? Come? No, dico, lei è molto ricca? No, assolutamente no. No. Non ho capito, quando eravamo fidanzati, non ho capito, voi vi siete sposati, ma quando eravate fidanzati scopavate o no? Sì. Sì, quanto? Con una media normale? Sì, una volta a settimana. Dopo è crollato tutto? Dopo, diciamo, quando lui ha cominciato a lavorare... Sì. Non abbiamo più fatto niente perché anch'io mi sono rotta di cercarlo sinceramente. Mm-hmm. Ma siete ancora sposati adesso? Come? Siete sposati ancora? Sì. Beh, avrà un altro lavoro adesso. Gli controlli il telefono, signora. Come? Che vuoi fare adesso? Gli controlli il telefono, avrà un'altra? No, lui mi ama tantissimo. No, ha un'altra secondo me. Ha un'amichetta. Secondo lei, che si chiama l'amichetta. Però scusami Lucia, voglio capire una cosa. Come fai? Cioè tu hai bisogno di fare sesso oppure no? Cioè, oppure no, è tutto normale? Io ho i miei bisogni sessuali, ma mi preferisco soddisfarmi da sola. Cioè tu anche tu preferisci soddisfarti? Sostanzialmente il vostro rapporto allora va bene. Sì, no? Siamo felici, sì. Cioè siete felici, però sostanzialmente non vi toccate. No, cioè può capitare che io gli faccia una pugnetta ogni tanto, però sono sempre io, cioè non è mai lui a cercarmi. Cioè lui non ti cerca mai? No, mai, non è mai capitato una volta, mai. Ma scusa, ma non avete parlato, non avete detto perché non mi cerca? Sì, ne abbiamo parlato. A che risultato siete arrivati? Allora, ti dico una cosa. L'uniche due volte che l'abbiamo fatto è stato quando siamo andati in vacanza, sì. Una volta in vacanza a casa mia giù in Romagna e l'altra volta in Croazia. Lui dice che forse perché è stanco, forse perché lo stress, eccetera, e questo mi sembrerebbe anche possibile, perché visto che quando siamo andati in vacanza è stato lui a cercarmi. Poi cioè, una notte, per esempio... Sì. Lui dormiva, sì. E mi ha messo la mia mano sul suo pacco. E io gli ho fatto una sega. Sì. Ma perché racconta? Perché alla radio alle 19:28? Perché evidentemente ha bisogno di raccontare questa cosa. Che ti devo dire? Ha bisogno di raccontare questa cosa. Non capisco. Ma la può raccontare a una terapista di coppia? Ha bisogno di andare da una terapista di coppia, dice Parenzo? No. Sì, c'è un problema da risolvere tra di voi, oppure secondo te tu sei soddisfatta perché mi sembra di capire che ti soddisfi da sola, o sbaglio? Sì. E come? In che modo? Vabbè, masturbandoti? Masturbandomi, vado su YouPorn, metto quello che mi piace, cioè le fucking machines. Ah, metti le fucking machine su YouPorn? Sì. Questa è la tua cosa preferita? Sì, quello è quello che mi... Vibratori? Un vibratore faccio da sola. Sono molto più soddisfatta che... Benissimo, evviva, cioè, praticamente evviva. Ti sei liberata dal gioco del coito. Sì, esattamente. Il coito ovviamente maschile. Però io voglio capire una cosa. Sostanzialmente ti piace l'uomo sessuato allora? Cioè il tuo... Cioè non sei in cerca di un uomo che ti scopi? No. Straordinaria questa cosa. E chi ha votato lei alle ultime elezioni, scusi? Io non voto più. Ah, ok. Non vota più. Però le piacciono, diciamo, i 5 Stelle, un po' la Lega. Io seguo tutte le trasmissioni politiche, di attualità, eccetera. Però proprio per questo non però voto più. Però è un po' attratta dai 5 Stelle, forse. Un no, per cerco di capire. No. Dalla piattaforma Rousseau, dall'idea di votare online. Ma perché? Perché? Comunque, perché? Io non ho capito. Cioè, tu da quant'è che non hai un rapporto, cioè un rapporto sessuale completo? Da un anno e mezzo. Da un anno e mezzo, pur essendo sposata qui, da un anno e mezzo praticamente non c'è un rapporto sessuale completo. Sì. E sei soddisfatta, va bene così. Non ti separeresti, non ti vuoi separare da tuo marito? No. Non ti vuoi separare? No. E lui? Nemmeno? No. Lui morirebbe. Fermi tutti. Ciao Lucia. Ciao. Ciao. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Ehi Flowy, scarica le PEC e smistale ai destinatari corretti. Flowy, i documenti in uscita sono firmati digitalmente? Flowy, hai protetto le comunicazioni con dati sensibili? Flowy? Flowy è la soluzione DocFlow a cui non devi chiedere nulla. Classifica, smista e mette al sicuro automaticamente le PEC grazie all'intelligenza artificiale. Flowy, FLOWEE. Scopri di più su flowy.net. Ciao, questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroen C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Anche domenica. Info su citroen.it. Citroen. da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri, come notebook HP, veloce, con SSD, a soli 549 euro. MediaWorld, fatto apposta per me, fino al 19 gennaio. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. I miei risparmi, interessi praticamente zero, meno i costi, fa più o meno, meno. I conti meno. Correnti rendono sempre meno. Banca Mediolanum invece ti dà di più. Sono Massimo Doris. Mediolanum oggi ti offre il 2% annuo sulle nuove somme vincolate a 6 mesi. Più un family banker dedicato per ogni tua esigenza. Mediolanum ti dà di più. Da sempre. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Pubblicità. Per i correntisti tasso lordo sui vincoli in promo fino al 31 marzo. Documento promozioni e fogli informativi su bancamediolanum.it. La Zanzara. Pippe. Mamma ragazzi, quanto mi piacciono i trans, mamma mia quanto mi piacciono. Parenzo, non sai cosa ti perdi, non sai cosa ti perdi. I trans sono la realtà, Parenzo, sono la realtà, i trans. Ti capisco, amore, persona come te capisco benissimo. Giuseppe, sono Lady Muffin, ma come mai tutte le volte che sento la voce di Parenzo mi viene voglia di masturbarmi? Come si permette? Come si permette questa cosa? Allora non ho capito. Ti dà fastidio se una. Ma dico, ma come si ti dà permette, fastidio se una che una sente la ma tua no, voce mi dà fastidio, ma e dico, poi come si masturba? Permette? Non ho capito. Ma, no, ma come si permette di dirlo Urbi e Tombi così? Ho capito, di, ma se una Lady Muffin, Lady Muffin è quella che col marito lì fa i filmini. Sì, esatto. Che umanità. Sì. Che umanità incredibile. Che mondo incredibile. Evviva. Tra l'altro queste sardine litigano pure tra di loro, sì. Io ho l'ossessione delle sardine, non so perché, cioè, sono ossessionato dalle sardine. Litigano sardine. Anche tra di loro, con la sinistra, litigano. Senti questa sardina, uno che si chiama Lorenzo Donnoli o Donnoli, Donnino, Donnuno, non mi ricordo come si chiama, sempre stamattina ad Agorà, che è la trasmissione che li ospita di più, i signori di Agorà. Sono dei protagonisti del dibattito politico. Sono protagonisti. Portano le persone cazzo, in piazza dirti, e sono protagonisti di un bene nuova energia di nel dibattito. Fava. Nuova energia nel dibattito. Siccome in Italia ci sono tant'è molti... che il PD di Zingaretti dopo Bologna, dopo le elezioni in Emilia Romagna, vuole aprire il partito anche a queste realtà civiche. Questo è il tema. Le realtà civiche del sardinismo, del civismo repubblicano. Ma perché usi sempre questi stereotipi, questi luoghi comuni? Ma quali luoghi comuni? Le realtà questi civiche hanno portato civismo, ma migliaia che cazzo di persone dire? In piazza. Ma no, senza ma ripeti i segni la stessa di partito. Cosa da due mesi. Ma tu ripeti da due mesi continui a dire che sono dei poveracci. No, mai detto che sono dei poveracci. Li prendi in anche giro, peggio, li sbertucci, eccetera. Sbagli. Se vuoi, sbagli. Ho detto anche peggio. Sbagli. Mi fai un torto se dici che ho semplicemente detto che sono dei poveracci. Mi fai un torto. Mi stai non offendendo. Avendo, pur non mi avendo mai usato toni aggressivi, non avendo mai fatto una manifestazione violenta. Nulla, tutto questo è che tu sono in giro. Nulla. Mi piace giocare con nulla. Come saranno sai, anche no? Nulla. 50 senti persone in piazza qua. Bologna saranno anche nulla, 50, per carità. Sì. 50, 60 mila, certo. Allora, Renzi per me rappresenta la sconfitta del centro-sinistra. Mamma mia, cioè la sconfitta a livello di politica, di comunicazione. Apro e chiudo parentesi, lei ha fatto un altro coming out raccontando che omosessuale i diritti civili li ha dati il governo Renzi. Li ha dati con quella tristezza di compromesso con Alfano. Ma come? Non abbiamo manco il matrimonio egualitario. Ma... I miei amici si sposano e adottano in Sudafrica, in Argentina, cioè, in Nuova Zelanda. Mamma mia, mamma mia, incredibile, incredibile. Mamma mia, mamma mia. Sono classici elettori di sinistra delusi che ritorna Tujak, no, il nostro Tujak consigliere comunale. Schifo. Della ex ma non è più Forza consigliere Nuova. Comunale, si è dimesso. No, non si è dimesso credo. Per niente. No, ma assolutamente da consigliere comunale no. I nostri santi lo dicevano che l'atto omosessuale è satanico. L'atto omosessuale per i nostri santi era satanico. Vabbè, l'abbiamo capito adesso questo. Non ce ne sono tanti che ne hanno parlato, come Santa Caterina. Cioè, dice che un omosessuale non può credere in Dio. Puoi credere in Dio, però devi stare in astinenza. L'atto omosessuale è, per noi è satanico. Poi se la prende con gli scaricatori di porto. Dici: io sono volgare, ma sono uno scaricatore di porto da generazioni. Cioè, non è che se la prende. Gli scaricatori di porto si sono anche un po' incazzati. Dici: vabbè, ma non ci puoi. Cioè, che vuol dire? Non è che tu, gli scaricatori di porto sono di per sé volgari, no? Beh, certo, volgare è volgare, però ripeto sempre: sono uno scaricatore di porto da generazioni. L'omosessualità è sempre da condannare. L'atto omosessuale per noi non è cristiano, anzi sarebbe, ho capito, però ascolta, sarebbe da condannare sempre. Posso dirti una cosa? A te ti piace, cazzo? Sì, non c'è dubbio. No, cara, le rispondo io. A me no, cara. Perché? Perché non c'è nessun problema, ma tu lo dici come dire, foga, con una tale convinzione da sembrare molto più omofobo di tante altre persone. Scusazio, non petita, accusazio manifesta. Questo non lo dico. È una cosa che è molto, molto, molto lontana dalla mia abitudine. Ma non ho capito, perché tu escludi abitudine? Che prima o poi... perché ci sono delle cose, è normale, questo è la tua autobiografia. A me in qualche modo possa essere prima o poi attratto dal pisello, posso escludere nella maniera più assoluta. Invece chi lo esclude in maniera così decisa è perché dentro di sé ha qualcosa che sta venendo fuori, non capito? So che sta venendo, non so come spiegarti, che io pratico solo l'altra azienda. Stefania da Vicenza. E anche con un certo orgoglio, solo l'altra azienda. Con un certo orgoglio. Con un certo orgoglio. L'orgoglio etero adesso. Con un certo orgoglio. L'orgoglio etero. Pratico è solo l'altra fuori azienda. L'orgoglio etero e di Parenzo. E anche con dei buoni risultati. Se ti posso dire. Sì, buoni risultati. Di figli, e con un certo orgoglio. Stefania da Vicenza. In generale, con un certo orgoglio e con dei buoni risultati. Altre pratiche le lascio a chi piace. Con tutto il rispetto del caso. Stefania da Vicenza, dai Stefania. Sì, ciao, guarda, ciao a tutti. È spuntato l'orgoglio etero adesso. No, il suo orgoglio. Dimmi Stefania. Hai detto, volevo offrire il mio modesto pensiero a Lucia, che prima ha parlato del suo pseudo. Sì, stai parlando col viva voce, però tu. Si è trasformata in una trasmissione ormai. Vai, dimmi. Cui si parla dei problemi sessuali degli italiani. Magnifico, evviva. Allora, volevo, dalle poche battute che lei ha dato in merito al suo quadretto familiare, sì, si dice, dal mio modesto punto di vista psicologa, che il marito è un gay. Sì, anche diversi ascoltatori lo hanno pensato. Adesso non glielo ho chiesto a Lucia per intenzione. Però non c'è niente di male, voglio dire, no? Ha un amante, è molto più semplice. Chi è che non ha l'amichetta, ma ha l'amico oppure un pensiero? Stefania, scusa, mi sei con l'auricolare sicuramente o col diavolo? No, giuro. Però guarda, ti posso dire, è venuto in testa anche a me. Poi a un certo punto non glielo ho chiesto perché tanto la risposta sarebbe stata no, sicuramente. Però siccome voglio fare una saga, la saga del rapporto matrimoniale della signora Lucia. La saga di lui, come concetta di casa di Salieri. Pensa quanto è felice il marito. La saga di Lucia. Pensa il marito quanto è felice. Pensa un po'. Bella la saga di Lucia. La saga di Lucia. Come va il matrimonio bianco di Lucia? Quante seghe si sono fatti, se si è masturbata, eccetera, eccetera. Posso dirti, Stefania, secondo me non è omosessuale. Capita che alcuni matrimoni vanno così, si trasformino in qualcosa di inesistente dal punto di vista sessuale. Ma non si è trasformato, non c'è mai stato, se ho capito bene. Due volte in due anni. Sembra una voce anche molto giovane, per cui... Sì, è giovane, giovane, assolutamente, ecco, non più di 30 anni sicuramente. Sai, come sia lei che lui, insomma, il testosterone c'è, lei ce l'ha il desiderio, ma adesso si è inibita da un certo punto di vista, ma proprio psicologicamente, secondo tu me. Lo dici da psicologa, naturalmente. Sì, purtroppo sì, magari ho la deformazione, ma devo dire. Ciao Stefano. Corrado, Taranto, Corrado. Eccomi. Dimmi Corrado, dimmi. Cioè, la signora della MILF là non mi sembra tanto MILF, ma mi sembra più una, quella delle rotole, mi sembra il mostro di Milwaukee. Sì, il mostro di Milwaukee addirittura. Il mostro, dici che devo avere paura del mostro di Milwaukee, dici. Beh, abbastanza. Sì, non mi sembra una MILF, una che vuole le rotole là, fa paura. C'è cioè, una che magari te le vuole scassare le rotole. Mamma mia. Poi per quanto riguarda il Festival di Sanremo, sono 2 anni, l'anno scorso Baglioni, una pippa, e quest'anno la signora Rula. Baglioni, che c'è? Baglioni conduceva, era un festival straordinario, il termine di ascolti. Vabbè, allora era sempre la signora Rula, se si presentava come, insomma, madrina, come uno sfoggio di vestiti, perché comunque è una bellissima ragazza, solo che ha la figa di legno. Maestro, questo chi se ne frega? Ma chi gliene frega a lei? Ma chi serve andare lì a dire sempre le stesse cose? Ma poi a noi che già li subiamo dalla mattina alla sera tutte queste cose qua. Ma tu dici che è inutile fare un monologo sulle donne islamiche? Per servire la canzone italiana mi devo sentire l'immigrato. Ma giudichiamolo una volta che l'ha visto, no? Invece qua c'è da un certo punto di vista, io Corrado lo capisco, perché uno deve fare il monologo sulle donne islamiche, ma sti grandissimi cazzi a Sanremo. Le donne islamiche non possono. Si è sempre parlato dei temi sociali a Sanremo. I diritti ce l'hanno, scusa, ma lei dovrebbe andare nelle zone dove protesta stato per quel dire, guarda, le donne qua devono cambiare, perché le dicono qua in Italia che già noi le amiamo, le rispettiamo. Vabbè, Gianni da Rimini. Gianni. Oh, pronto, ciao Frassani. Dimmi Gianni. No, volevo chiederti non so se tu sai, quello leader delle sardine, no? Che sì, l'ho visto anche Sarduzzo, Santuzzo, sì, non mi ricordo mai come si chiama, mi confondo, Santuzzo, Samminchia, Santoro. Comunque lui, ecco lui. Ma cioè lui che lavoro fa? Studia, lavora, quando si sveglia la mattina? Ma non lo so. Certamente ha molto tempo libero, su questo non c'è dubbio. Che abbia molto tempo libero, su questo non c'è. Beh, è evidente che c'è molto tempo libero. Mi pare Savastandir, la gente che lavora dalla mattina alla sera non ha il tempo di organizzare un movimento politico. Anche se lui dice di non sapere che cos'è ancora la politica. Lavora. Sì, amico mio. Adesso diciamo la verità. Da questo punto di vista non ho nulla da rimproverare, però Gianni ha ragione. Cioè, una persona che lavora dalla mattina alla sera non ha il tempo materiale. Ma c'è anche il volontariato. Sì, certo. Ma non è vero. Il volontariato si fa tempo perso quando hai finito di lavorare. Ma io dico, però, vi trovate di fronte a un gruppo di persone che si sono messe insieme per fare Sergio questa cosa. Sergio dalla provincia di Imperia. Li insultate come fossero i peggiori criminali. Siete una cosa pazzesca. Sergio dalla provincia di Imperia, vai. Ma non stiamo insultando nessuno. Uno si porrà delle domande, no? A qualcuno stanno simpatici, ad altri stanno antipatici. Qual è il problema? Ci deve essere il consenso universale sulle sardine? Ma chi ha detto? Dai, su. Pronto. Chi è Sergio? Chi è questo qua? Sì. Sergio, dimmi, vai. Ciao Cruciani. Non volevo parlare delle sardine, ma della Gebral. Comunque, sardine, quei quattro lì, sono dipendenti di società riferibili a Romano Prodi. Ma non è vero. Ma non diciamo stupidaggini. Lui lavora per una società dove non è neanche più di Prodi adesso. Ma che stupidaggini dite? Poi comunque tutte le persone. Solo perché la moglie di Prodi, assieme a altre 50.000 persone, scese in piazza. Fanno parte della sinistra. Questo mi pare abbastanza. Fanno parte della sinistra, mi pare ovvio. Sono anti-salviniani, mi pare evidente. Ti avevo chiesto tempo addietro. Come mai ti circondi di persone così violente? Chi sarebbe? Nei commenti ce n'hai due ogni tanto. Stasera ce n'è una sola. Violenta nei commenti, nelle parole. Per esempio, nei che cosa? Fammi un esempio, però, amico mio. Vi veniamo a suonare i campanelli, i carabinieri subito da quel signore lì. Lei dice per denunciare, lei dice per denunciare i neofascisti. Quel certo, poco sì. Che hai. Vabbè, sì, parliamo della Gebral. Se uno insulta e offende, gli arrivano i carabinieri. Fammi sentire sulla Gebral. Ha parlato male dell'Italia, l'ha diffamata dicendo che lo Stato italiano, in un certo periodo storico, queste sono interviste, mandato milioni di ebrei a morire nelle camere a gas. Questo è falso. Vabbè, ho capito, milioni non saranno stati milioni, ma insomma, durante il fascismo un po' di persone furono mandate nelle camere a gas. Questo no, non c'è intanto dubbio. Intanto bisogna distinguere prima del 43 e dopo il 43. Vabbè, ma Sergio, cosa vuoi dire? Non ho capito, spiegami adesso, qual è il punto? È una persona che ha parlato male dell'Italia, parla male degli italiani, è una persona che rappresenta una fazione politica, partitica e soprattutto partitica, no, che sia una persona schierata, che sia una persona che ha una sua precisa connotazione politica. Non è ancora un capo politico. No, ma che c'è da fare la giornalista? Ragazzi, non pigliamoci per il culo, dai, su. Ciao Sergio, ciao. Allora, grande ritorno, Parenzo, alla Zanzara. Alessandro Meluzzi, buonasera. Buonasera a voi. Così buonasera, a freddo me l'hai buttato. Così come stai? Come stai, Alessandro? Come stai? Mamma mia. Sereno dopo le feste. Bene, allora voglio dirti una cosa. Mamma mia. Che ne pensi tu di questa vicenda? Stai zitto un attimo. Che ne pensi della vicenda della Gebral? Perché io ho detto una cosa. Ma io anche la considero totalmente irrilevante. È una questione televisiva, hanno lo stesso agente. Dovrebbe riguardarti, visto che sei in televisione, dovrebbe riguardare anche Meluzzi. Lui Amadeus Meluzzi. E devo dire anche in qualche modo l'ex presidente del Consiglio, che ha avuto il suo debito per la villa ripianato dallo stesso prete, quindi è normale che in queste dinamiche di relazioni televisive, di contratti, si comprino i pacchetti. Quindi no, ma questo è vero. Amadeus, nel pacchetto Amadeus ci sta anche la Gebrale, probabilmente ci sta anche Renzi in qualche modo. Sì, sì, no, ma anch'io credo che sia più una questione televisiva. È una questione di presta, di normali agenti televisivi, quindi non farei di una formica un elefante. Però io ho fatto un esempio la settimana scorsa. Cosa sarebbe accaduto? Oggi ho aggiunto anche te al pacchetto. Cioè, sì, ho detto, cosa sarebbe accaduto se una Rai, una disgrazia, una Rai di un certo tipo avesse invitato a fare un monologo. Ho detto Maria Giovanna Maglia, altra donna che ha delle posizioni politiche così come le ha la Gebreal, e non valgono meno di quelle che ha la Gebreal. Alcuni pensano che siano giuste, altri pensano che siano sbagliate, però sarebbe successo il pandemonio, perché tra l'una e l'altra poca differenza c'è dal punto di vista del profilo, no? Del profilo. No, c'è molta differenza, perché in Italia non tutte le opinioni hanno lo stesso diritto di cittadinanza. Questa è una cosa che riguarda anche molti altri ambienti del paese, i giornali, i grandi quotidiani, l'università. Cioè, le opinioni della Maglie e mutatis mutandis si parva licet compondere magnis le mie non hanno lo stesso peso, lo stesso di quello di Gebrale. E quindi lo considero normale. Poi forse la storia cambierà. Non ce le hanno, mi pare che ogni sera pontifichi in televisione, quindi mi pare che le tue opinioni non vengono messe a tacere. Le follie che hai detto sulla sostituzione etnica, nessuno ha detto che è una stronzata mega galattica. Le hai dette, hai pontificato. Ogni sera sulle reti media, se lui dice quello che gli pare, ma va benissimo. Io dico delle cose che sono dei fatti. Dei fatti. Ecco, spaccia per fatti delle opinioni clamorose, incredibili, folli, ma poco male. Cito un'opinione di un mio compagno di liceo di cui dissento completamente, che è Domenico Siniscalco, attualmente presidente della Morgan Stanley, mio compagno di liceo. Ma tu dici che c'è un piano delle banche? E che ha recentemente dichiarato, ma non l'ho dichiarato io, l'ha dichiarato lui, ad una riunione del Fondo Monetario Internazionale, che il quadro demografico occupazionale del rapporto traffico Europa è il presente. Dei 400 milioni di giovani africani che entreranno in età lavorativa e in età militare in questo decennio, soltanto un terzo troverà occupazione in Africa. Ergo, per ragioni di autunno demografico in Europa e dinamiche del mercato del lavoro, almeno 5 milioni di africani devono venire nel sud Europa. Questo l'ha detto lui. Ma non è che li porta lui, allora, non li porta lui, non dice che è un'analisi economica, no? Lui fa mica lo scafista, fa l'economista e fa il presidente di una grande però banca. Però tu dici quello che tu hai detto è che le banche hanno un grande complotto per portare forza lavoro estera in Italia. Dici delle follie. È quello di aumentare il PIL alle banche. Gli interessa soltanto una cosa, la crescita del PIL. Ma dove hai i soldi? Ovvie, perché si presta denaro, perché si stampa denaro, perché la cosa che conta non è la qualità della vita dei popoli, no, niente. Ma la qualità del denaro. Contano i popoli invece, non soltanto la moneta. Popolo europeo, quei popoli, i lavoratori, chi viene qui perché vuole stare bene, vuole un'altra vita, come quelli che emigravano negli Stati Uniti, come quelli che da Cuba scappavano per andare a Miami. Non è la stessa cosa, dai. Gente che cerca libertà e diritto e un posto bello dove stare senza dei rompicoglioni come Meluzzi, per dirla tutta. Però scusami Alessandro, tu hai detto che c'è veramente un piano di sostituzione etnica di milioni di persone per venire in Italia. Questo ha detto. Ma non lo dico io, ci sono dei documenti dell'ONU del 97 che sono accessibili, che sono dappertutto e che parlano di un flusso di 180 milioni di africani in Europa entro 2050. No, ma c'è un piano guidato da altre persone. Il piano Calergi. È un disegno socio-economico che poi assume la forma di un cambio etnico, come ovvio. C'è un disegno da parte anche della finanza, di uomini. Come c'è stata una crisi demografica in Europa? Gli europei hanno fatto pochi figli, sono troppo ricchi rispetto ad altri popoli europei, sono invecchiati. E forse sarà bene che non si sia gli africani, ma i poveri europei lo devono sapere, perché non è giusto che i tacchini facciano festa alla vigilia di Natale o della festa del ringraziamento, perché per te questa qua è una fregatura. Io credo che lo sia moltissimo per gli italiani e per gli europei in generale. Ma questo non lo penso io, è un'ovvietà. C'è ovvietà. Ma tu pensi che per esempio la Rula Gebrale sia un esponente Topolino. Di questo? Sia un esponente ma no, di... ma Rula Gebrale è soltanto un'artista televisiva sponsorizzata una da giornalista e dai suoi. Ma come cosa dire? C'entra? È una giornalista. Che c'entra? Ma parte di Amadeus e quindi è giusto. Ma quale pacchetto? Tu sei del pacchetto di Rete 4 e infatti sei sempre a Rete 4. Ma che pacchetto? Che minchiate dici? Ma che c'entra? Va bene, ma non c'entra niente, fai il tuo pacchetto per i fattacci tuoi. Se avessi un agente troverei delle collocazioni migliori delle mie. Perché migliori? Ottime. No. Perché sputi del piatto dove mangi? È ottima che Mediaset. Collocazioni migliori. E allora? Lo considero un programma molto dignitoso. No, non solo quello. Ne fai tanti altri, ma poco male. Vado ogni tanto a Quarta Repubblica, ma oltre questo nient'altro. Cioè, non faccio nessuna parte, non faccio parte di nessuno. Però secondo me, ragazzi, se tu metti Meluzzi al posto della Gebrale, sarebbe successo un casino. Un disastro in termini di ascolti, una migrazione di massa. Ma questo che cazzo ne sai? Ma che c'entra? Altri canali, sostituzione etnica di pubblico ci sarebbe stato. Io sono contentissimo di non essere. No, però voglio dire il punto: se qualcuno avesse proprio posto Meluzzi, lo avrebbero rinchiuso in ospedale psichiatrico. Non vorrei mai far parte di un club nel quale mi accettassero come socio. Esatto. E faccio mia questa battuta. Di Lucio Marx, ciao, bella, ti ciao, fa onore. Ciao Alessandro, ciao. Ciao, ciao. La Zanzara. So che abbiamo tante telefonate. La Zanzara non può chiudere, non può. La Zanzara. Sono deluso e sto piangendo. Vieni. No. E sto piangendo. So che abbiamo tante telefonate. Io non sono vegano, però quando sento che un cacciatore muore perché gli hanno sparato degli altri cacciatori, godo, perché quelli che ci sono in giro la domenica non sono i veri cacciatori sono quelli che si fanno il culo, che vanno in montagna a camminare per ore per fare una caccia selezionata, non quattro sessantenni, cinquantenni obesi con la pancia che vanno a fare il giretto in pianura padana o nei boschi per sparare ai fagiani d'allevamento o ai cinghiali liberati. Ma che merda è? Ma quella è gente di merda, quella lì. È come andare a sparare nel pollaio. Quindi se si impallinano tra di loro gli sta bene. E sapete perché si impallinano? Perché sono dei mongoloidi. Senza offesa per i mongoloidi, ma sono dei cretini, dei grandissimi cretini. Io godo quando si sparano tra di loro, godo come un riccio, Cruciani. Questo è un povero imbecille che gode della morte dei cacciatori, è un cretino totale, però qualcosa sta cambiando. Se perfino, ti ricordi quella là che era una fruttariana che beveva l'urina, che beveva la sua urina? Ma io mi ricordo che una volta la Briglia, chi è che beveva l'urina? Sì, la Briglia d'Ori, sì. La Briglia d'Ori. Vabbè, c'era una moda di persone, anche noi ospitammo diverse persone che bevevano l'urina, ti ricordi? Fummo all'avanguardia in quel settore. Sì, assolutamente. Dell'informazione, assolutamente. Fummo all'avanguardia. No, all'avanguardia. Fu Antesignani, si potrebbe Antesignani, dire. Antesignani, no? Assolutamente. Facemmo venire in studio persone che bevevano l'urina perché pensavano ieri, perché guarda. Pensavano e pensano, immagino. Sì. Che bevendo la propria urina naturalmente un paio, due, tre volte al giorno, diciamo tutti i mali scompaiono, le difese salivano, le difese immunitarie facciamo, facciamo una cosa televisiva naturalmente. Lo ricordo ancora quello ricordi, che bevo in diretta al pescio, bellissimo. Ma scusi, Piacere, non ho mai pensato di proporre alla Rai questo format qui di gente che beve. Sì, naturalmente lo facevo con Marco Pannella, che fu anche lui il primo naturalmente in una grande trasmissione televisiva con Maurizio Costanzo, all'epoca io dirigevo Rete 4, e Pannella, stremato dal digiuno, naturalmente beve le sue urine, 30% d'ascolto, dai, 30% prima serata fece, bellissimo. Pannella non ha mai proposto a Rai questa sua produzione continua ogni minuto. Dunque, di naturalmente format. Stiamo lavorando naturalmente a questo nuovo format, naturalmente. Si dovrebbe appunto chiamare il Piscio Renzi Show, naturalmente. Bella. È uno show straordinario dove Matteo Renzi, naturalmente, quello che mi voleva cacciare. No! Allora, voleva... che dovrebbe fare questo Matteo Renzi? Naturalmente è costretto a bere l'urina, naturalmente, dei sovranisti in diretta, no, live, naturalmente. E per iniziare la degustazione si partirà da quella del professor Savona, naturalmente, che ora è alla Consob. Ho capito, ma deve essere costretto. Il pubblico deve decidere, naturalmente. Bellissimo! Il politico al servizio del popolo, dai! Cioè, bisogna riportare i valori, dai! Cioè, deve decidere! Il pubblico cos'è che decide il pubblico? Naturalmente decide chi offrirà l'urina e di chi Renzi. La TV nuova è interattiva, naturalmente, dove la gente deve partecipare, dove c'è più una passività. Ti siedi sul divano, naturalmente, e assorbi quello che questo magnifico elettrodomestico ti manda, naturalmente. Ma ora la televisione è partecipazione, naturalmente, noi stiamo inventando, naturalmente. Ovviamente la RAI ha respinto questo format. Dai, non ho coraggio, mi ha cacciato Salini, questo qui. Ho capito, dai, però, scusa. L'ho proposto. Lo posso capire, lo posso capire. Ma posso capire, perché sei conformista che tu. Ma dai, lo posso capire. Conformismo. Renzi legato e costretto a bere il piscio dei sovranisti. Lui fa ascolto, però, pensa. Ci funziona, dai, vedi se non funziona, devi solo vedere se funziona o non funziona l'etica. Ma se vuoi l'etica, naturalmente vai in un monastero, naturalmente. Se tu dici la TV è etica, allora vai, e allora fai il prete. No, neanche quello si può più dire, perché ormai anche prete ne fanno una più di Bertoldo, naturalmente. Però se dici io voglio la TV etica, e allora vai a Rai Vaticano, dai, TV Vaticana. Vabbè, grazie. Allora, caro Parenzo, abbiamo con noi, grazie Freccero, caro Parenzo, abbiamo con noi un signore che è venuto qui anche in studio, sì. Un signore che è venuto in studio da noi l'altro, quanto è stato? Prima delle vacanze di Natale, che si chiama Max Felicitas, eccolo qui. Max, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, sempre duro. Adesso non è che ce l'avrai sempre duro, sto pisello. Sempre duro, visto che hai scopato con una signora di una certa età, la signora Valentine Demy. Non so se ti sia venuto duro con l'ex pornostar che vuole, che per un attimo ha riassaporato dopo 10 anni. Ma non duro, di più, cioè nel senso, ma poi il video è visibile da chiunque, cioè non duro, durissimo. Addirittura, cioè la MILF ti arrapa, la MILF ti ha arrapato da morire, la signora Valentine Demy. Ma chi è che non arrapano le MILF, scusa? Beh sì, amico mio, cioè io so che ho saputo da un produttore porno di video hard che una nuova moda, quello che tira molto sono le vecchie, per cui capisco che tu ti sia eccitato con la signora Valentine Demy. Però io devo dire che hai ragione, perché anche come incassi, diciamo, ho visto la differenza con la Demy. Cioè, non ho capito. Cioè che la Demy ha fatto molto meglio di anche di ragazze giovani. Ecco, lo vedi? Sì. Lo vedi? Ma sì, amico mio, io sono informato di queste cose qua. Cioè, Il vintage tira. Cioè se metti una ragazza di 20 anni in un video, così mi hanno spiegato i tecnici, oggi sì, puoi fare delle visualizzazioni, delle cose, eccetera. Però se metti una over, se metti una MILF, se metti una persona, che ne so, sopra i 50, adesso MILF o no, che sì, sia... Fa ancora di più. Perché è la ricerca, ecco, del diverso, dovresti capirlo anche tu. Fa orrore. Giuseppe, la mia unica paura arrivato lì era il fatto di poterla trovare pelosa. Cioè io la figa pelosa è una roba proprio che odio. Quella era depilatissima. Sempre. Sì, sì, perché ti posso dire, Max, perché lei ha quella imprinting da pornostar che non ha cambiato, ed è una di quelle pornostar che ha fatto il porno e già si depilavano, capito? Comunque era depilata, dunque tutto a posto per te. Sì, stupendo. Poi aveva quel piercing nella figa che mi eccitava ancora di più. Ah, quello io, guarda, sono indifferente a quello. Vabbè, posso riusciamo dirti a capire, avere la sua opinione sui reali no, inglesi? No, la cosa che per cui ho chiamato Max Felicitas è un'altra, perché continua questa grande lotta, questa grande guerra di Max Felicitas, in particolare contro Rocco Siffredi. Allora, voglio capire, Max... No, Giuseppe, ti correggo, cioè è sempre... Lui che attacca me, cioè io non l'ho mai attaccato, è lui che... Beh, no, tu l'hai attaccato pure tu, te, non è che non l'hai attaccato. Quando c'è stata la vicenda della Smeraldi, chi ha scoperto Martina Smeraldi? No, lì non ho attaccato lui, lì ho attaccato chi aveva detto quella notizia lì che non era vera, non lui. Infatti, cioè, ci eravamo anche sentiti e su quello non ci sono mai stati problemi. Comunque tu sostieni, cioè lui ha detto, in questo caso lui ha detto che, insomma, ha fatto capire che tu... E in realtà sei un po' un crypto gay, che sei questo ha fatto capire, no? Cioè, questo ha fatto allora, capire. Allora, quello che ti dico io è l'unica cosa che mi è dispiaciuta è che lui definisce, cioè mi ha dato del gay ma dandogli una concezione negativa, che questa è una cosa che no, questo non credo, figura che gli frega, che gli frega ma, Rocco. Ma cioè, nel senso non sono solo stato io a interpretarlo così, perché se tu vai a leggere anche la varia, insomma, la LGBT community si è rivoltata un po' contro su Twitter, se vuoi seguire. Però tu hai detto un anziano porno attore che fa il mio nome per rimanere attivo sui social, che non è che c'ha bisogno di rimanere attivo sui social, Rocco, dai. Beh no, ma se, ovviamente io dico la mia, se lui può dire la sua io dico la mia, io mi sono sentito attaccato, quello che dico io è che secondo me il punto finale di tutto è che lui deve continuare a fare le sue cose e io le mie, cioè non ho capito perché deve esserci lo sconto, però può finire qua, cioè io non voglio più sentirlo, non voglio più sentire il suo nome. Non vuoi più sentire il suo nome, ma t'ha lanciato lui, t'ha lanciato, dai. Ma no, a me non mi ha lanciato nessuno, cioè io mi sono fatto il culo da solo, cioè te lo dico. Questo letteralmente no, proprio. Che tu ti sei fatto il culo da solo, su questo non c'è dubbio, però uno deve anche essere riconoscente contro con chi, insomma, in qualche modo. Col Pig Maglione. Lui è il mito del porno, da lui ho imparato, cioè da lui ho imparato tanto. E lo chiami un anziano, hai detto un anziano adesso. Ma no, perché lui ovviamente mi attacca, ma comunque, cioè, ma anziano, cioè nel senso, ha 55 anni li ha, cioè effettivo, anziano nel settore del porno, cioè nel porno uno di 55 anni è anziano. Insomma, anziano, sai, cioè, sì, ho capito, è anziano, però cioè, ce ne fossero di anziani, cioè, ma io non ho detto che è un anziano, cioè, io ho detto è anziano. Ma hai detto anche vai in pensione perché io sono il futuro. Adesso va bene. Questo, scusa, sarò libero di pensare quello che voglio, no? Cioè dovrebbe, perché dovrebbe andare, no, per carità, assolutamente, perché dovrebbe andare in pensione? Non posso fare di 400, così freddo. No, ma infatti, cioè, io vorrei fare, ecco, io vorrei aiutarlo a fare un'azione pubblica in modo che venga riconosciuta una pensione anticipata per i lavori che non vuole andare in pensione, che è un lavoro durante. Cioè tu dici che dovrebbe andare in pensione con i soldi nostri, no? Però insomma, questo non credo che abbia bisogno, eccessivo, che abbia bisogno. Mi sembra che le abbia dei suoi. Tu insomma hai detto goditi le tue glorie, vai in pensione perché io sono il futuro. Ho capito, dov'è? Ma è la verità, è quello che penso, cioè te lo ripeto, è giusto che lui vada in pensione e che lasci spazio agli altri, cioè, ma a parte che, cioè, secondo me, cioè, i giovani forse non sanno neanche chi è, ma è giusto che lui, cioè, faccia la sua strada, continui a fare le sue cose, ma che non rompe i coglioni a me, come io non voglio più parlare di lui. Cioè, nel senso, io ho risposto a questa chiamata solo perché si sta, insomma, e ho stima nei tuoi confronti, ma basta, io non voglio più sentire parlare di Siffredi, cioè per me può andare in pensione a una certa età e deve smetterla, insomma, di rompermi i coglioni, di attaccarmi su cose futili. Cioè, cosa attacchi uno dicendogli che non gli tira così? Ma c'è, che si vedesse lui, cioè, non è che lui è sto mostro, cioè, per me, capito? Poi ognuno ha il suo pensiero. Io quello che dico è: io faccio la mia strada, lui fa la sua, basta. Cioè, non sì, ho capito, però qui nasce. Da che cosa nasce questo scontro qua? Non credo che sia stato lui ad iniziarlo, Max, scusami. Beh, no, assolutamente sì. Cioè, se tu vai a vedere su YouTube, cioè, è cronologica la cosa. È cronologica. Ma la no, cosa. Ma lui, voglio dire, cioè, ho capito, ma che lui che bisogno ha di attaccarti? Cioè, non, cioè, ma non è questo che... dovete chiedere a lui, non a me. Cioè, come faccio a sapere io il suo motivo? Eh sì, non so bene l'inizio delle cose. Chiedete a lui. È che tu ogni volta dici, io sono il nuovo, lui è il vecchio. Ma io potrei avere una mia opinione. Cioè, sì. Poi c'è stato lo scontro su chi ha reclutato, tra virgolette, Martina Smeraldi. Poi tu hai detto... ripeto, non è stato uno scontro tra me e lui, è stato uno scontro tra chi ha dato la notizia. Questo ci tengo a ribadirlo. Però chi se ne frega, ragazzi, della vostra carella, però scusa, aspetta Max, perché ha chiamato Rocco, aspetta. Ha chiamato Rocco, ci vuoi parlare? Max? Grande Max. Cosa? Grande Max. Grande Max. Ciao Rocco. Ciao. Dimmi, Rocco. Senti, Max, se mi ascolti solamente un minuto, allora innanzitutto lasciamo perdere la parte gay, però parliamo in maniera veramente seria e sincera. Tu hai iniziato proprio a Zara dicendo le tasse vanno pagate in Italia, Siffredi dovrebbe pagarle in Italia. Ma sei un autentico imbecille, perché per prenderti... Ma imbecille sarai tu, vecchio e imbecille. Vecchio non è un insulto. Fammi dire, Max, io sono da 25 anni a Budapest, certo. Produco la società qui e devo pagare le tasse in Italia. Certo. Tu sei stato da me a Budapest, ti ho lanciato io, non ti vergogni neanche a dire che non sei venuto da me. Poi comincio a dire, ho visto una news che dici Rocco si è permesso di mettere queste due ragazze insieme a 70 ragazzi. Tu vieni a fare la morale No, tu non hai capito quello che fammi finire per loro. No, Max, non fare il furbo. Tu e Di Pre che avete lanciato verso i ragazzi, che parli di conoscere i ragazzi giovani come fare il porno, cocaina. Ma che cazzo dici? Io non mi sono mai creato in vita mia, ma ritirati. Hai la demenza senile, ma che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Ma non permetterti di pagare il mio nome così, io non è. No, scusami, Rocco, però tu stai dicendo che lui. No. Che cazzo stai dicendo? Non ha detto che no. Cruciani, aspetta, Max. Il vecchio ci sta. Max, calma un attimo. Dimmi, Rocco, dimmi. Max, io ho 55 anni. Però lui dice di non aver mai fatto uso di cocaina, però. Lui ha detto di non aver mai fatto uso di cocaina, però, Rocco. Lui dice no, aspetta un attimo, allora Giuseppe, ascolta un attimo, io sono 35 anni che faccio questo lavoro, questo è venuto, questo ragazzo qua è venuto 2 anni fa insieme a altri 70 ragazzi e quindi non si può permettere oggi, dopo un anno, questo è un po' è vero, si fa una maniera di scontate, lui e l'amichetto suo, i tre hanno ma che cazzo c'entra di pre? Io da 2 anni che non vedo di pre. Ma vai a cagare, ma non dire stronzate, non dire stronzate. Però lasciamo perdere queste cose che io non le conosco. Non le conosco. Cruciani, no. Aspetta, Giuseppe, io ti dico una storia, però ci sono tutti i video, se tu non conosci non lo so, ci sono i video. A me quello che dispiace che le ragazze che recluta lui, che non ha nessuna storia e nessuna produzione, gli promette di fare le star fino a quando fa la scena con lui, poi escono, cadono nel dimenticatoio. Ma questo vai a cagare che le ultime ragazze le ho lanciate qui, io e se non ci sono io tu ma che lavori? Vai a cagare, ma che cazzo dici? Ma non credo, Max, non credo che non lavora. Aspetta, Max, non credo che non lavora, se non ci sei tu però, Max. Ma ti rendi conto cosa mi stai dicendo? Che io parlo di droga? Quando mai ho parlato di droga? Ma che cazzo sta dicendo sto qua? Sto qua ci sono rincoglionito. Tu e il tuo amico di Pre avete fatto tanti video, ma che cazzo c'entra di Pre? Dimmi. Giuseppe, se mi fai parlare ti spiego. No, ma hai ragione, Rocco. Io vedo qui un'Italia divisa come quella che sta con Serrai e quella che sta con Haftar, con generale Haftar. Sono due Italie che hanno come in Libia. Parenzo, ma che mi stai paragonando a questo deficiente? Dai, senti un attimo. No, è vero, scusami, su questo vera, hai ragione. Su questo la hai ragione. Cosa vera, Parenzo, la cosa vera è che Martina Smeraldi è venuta da me dopo che ha girato con lui, dopo 3 mesi. Ci vuole rispetto per le istituzioni. Ha ragione. Ma che cazzo allora tiri sempre in mezzo altri? Abbi le palle. Cosa tiri fuori in mezzo altri? Che Martina, c'ero anche oggi. Come bisognerebbe risentire di Pre, giustamente. Gli fai una domanda tu al nostro amico pornostar a cazzo duro sempre. Quando lo chiami è sempre in tiro. Il vecchio di 55 anni c'è ragione, Max. Io sono comunque vecchio, hai ragione, questo non ti posso dar torto. Ho un solo problema, il cazzo mi tira sempre, che devo fare? Però con tutto il Viagra che ti prendi, è ovvio, con tutto il Viagra che ti prendi, ovvio. Questa è diffamazione, Senti, no, non è diffamazione perché io, Cruciani, tutti lo prendono, te la lancio qui, Cruciani, te la lancio qui. Dimmi. Invita l'amichetto tuo lì davanti. Sceglie la donna da te in radio, voglio vedere se hai coglioni. Io non lo farei. Sceglie la donna, a me mi metti una vecchia di 90 anni senza denti con la dentiera. E me la inculo e mi inculo pure lui. Ascolto, lui inculo, dai! Vecchietta. Ma fai schifo, fai schifo! Senti un attimo, perché a me mi diverte il suo amico. Allora, senti la grande, ma è vero che fai vai in America? Giuseppe, una domanda. Fagli questa domanda tu. Dimmi. Dove è stato oggi lui? Non lo so. E perché si è rifiutato oggi di girare con Malena? Perché si è rifiutato di Anzi, 2-0. Allora, aspetta, qua parlo io. Allora, io sono un galantuomo e io non voglio parlare di terze persone. Allora, io non sono un vigliacco, io non voglio tirare in mezzo terze persone che non c'entrano un cazzo con la discussione tra me e lui. Se Malena, tu non vuoi girare nessuno dentro, amico mio. Se Malena vuole parlare, parla lei. Perché io devo parlare a te per Malena? Cruciani, se io volevo sputtanarlo questo ragazzo, perché a 26 anni non mi va, ho almeno 10 ore di materiale a cazzo moscio. se lo voglio ma che cazzo stai dicendo? Però guarda, scusami, Rocco, aspetta, fermi tutti, perché Rocco, un grande giornalista del Corriere della Sera che sta ascoltando la conversazione, un grande giornalista, Rocco, davvero, è tutto vero, un grande giornalista del Corriere della Sera che è in macchina, non posso dire il nome, non posso per tutelarlo, però mi dice da la sfida tra questo e si vedi bellissimo, non riesco a uscire dalla macchina, roba epica. Puoi dire il nome, si può rivelare. Giornalista del Corriere della Sera, se Tommaso Labate dice giustamente: chiamate Di Pre, il gran giurì Di Pre, per capire. Ma figurati quello. Allora, di fronte a una richiesta come quella che viene dal quotidiano fondato nel 1876 da una delle penne più illustri, che non riesce a uscire dalla macchina, è imbottigliato. Felicitas, che stavi dicendo? Felicitas, che stavi dicendo? Posso parlare? Max, allora, dimmi. Io intanto voglio solo chiudere, ma sto Felicitas, non mi piace. Allora, io sono... Aspetta, fammi sentire Max, dai. Allora, io quello che voglio dire io è, io voglio chiudere tutta sta bufera che ha alzato lui dicendo che io farò la mia strada e lui continua a fare la sua. Cioè, non ho capito che cazzo voleva me. Io non parlerò mai più di lui. Ho capito, ma siccome gli hai dato del vecchio, eccetera, quello si è incazzato, giustamente. Lui mi ha fatto un video contro di me. Ma ha detto che non ti ha detto che alla fine non ti tira troppo. Ma che cazzo te ne frega? O intanto fai la tua strada, che te ne frega? Cioè, se te ne devi fottere, te ne fotti, punto e basta. Lui ha usato gay con una concezione negativa e io questo non lo posso Max, ma che cazzo ti stai attaccando? Max, attaccati alla figa, che è bella quella. Io non ho parlato di omosessualità. Ma io amo la figa più di te. Io ho parlato solo di una cosa: di non fare la morale. Tu non puoi fare la morale a nessuno. Ma perché non posso? Perché? Perché non puoi fare la morale? Perché sei già di tuo una persona non bella. Tu venderesti i tuoi per essere conosciuto. Ma vai a cagare, non toccare la mia famiglia. Merda, non toccare la mia famiglia. Coglione, non toccare la mia famiglia. Ma perché? Che ha detto? Vecchio, che ha detto? Che ha detto? Vecchio. Però scusami, aspetta un attimo, Rocco. Rocco, è vero? Stai imitando il grande Sgarbi, stai imitando. Ma che cazzo? Scusami, Rocco, è vero che vai in America fra poco perché ti danno un premio, non so che cosa. No, non è che mi danno un premio. Ho 55 anni, caro Cruciani. Mi chiamano per fare il più grande film della storia con la ragazza, l'attrice di Hollywood, ma non quella Hollywood, Disney, ha capito, 55 anni, ma non ho bisogno di farmi questa pubblicità di fronte a sto deficiente. Quello che voglio dire è che vado vecchio, con 13 nomination. No, ma Max, io lo capisco che ti girano i coglioni, lo sai quanti ho fatto girare i coglioni? Ma tu ti però rendi conto che mi hai detto che io mi drogo? Io non ho mai toccato una droga, sarai tu un drogato, con quegli occhi lì. Sarai tu un drogato, non io. Non ho detto riprenditi, che ti droghi. Vecchio, io non mi ho mai. Tu non puoi permetterti di dire così. Sei tu un drogato, non io, capito? Che io faccio messaggi sulla cocaina, quando mai? Io no, non ha detto che fai uso di cocaina, non ha detto che fai uso. Da quando Di Pre ha parlato di cocaina non l'ho più voluto vedere, da due anni che non vedo Di Pre. Sì, quindi prima di parlare informati, impara a usare Instagram, fai un corso, non sai neanche fare una storia. No, lui però giustamente non sai fare una story. Vabbè, che cazzo c'entra le storie? Però scusa, posso chiudere questa cosa? Max, chiudo questa cosa dicendo che su una cosa Rocco ha ragione. Cioè nessuno, cioè tu non ti puoi permettere di fare la morale dicendo che lui deve pagare le tasse di qui, di là e altre cose, perché giustamente quello si incazza, ognuno ha i suoi scheletri negli armadi, no? Le sue frequentazioni. Allora, Giuseppe, se troviamo un po' di calma, io ti dico l'unica cosa che mi ha fatto incazzare. Non ho mai parlato di lui dicendo che non è un attore vero, e sono usciti articoli e lui lo sa dicendo che sarebbe stato il mio erede. Ho detto ammazza che erede, però mentisco, non l'ho mai io chiamato. Non sono il tuo erede, io mi vergogno quando dico questa cosa. Successivamente, io non sono il tuo erede. Dai, va bene, dai. Successivamente, quando ho visto i video con Di Pre, ho detto guarda a che livello siamo arrivati. Poi adesso lui io quando lavoravo con te facevo me, i video con Di Pre, avevi visto Cagna, avevi detto che era bello, ma che cazzo stai dicendo? È inutile che mi parli sopra, non aver paura di quello che dico, perché tu ma mi non conosci. Ho paura, per te ho paura dico di te, per te ho paura di te, ho paura so di te. Del culo. Allora, lo sai che devi fare tu, sì. Max? Se mi vuoi affrontare e dire che sei una persona sincera, vera, non cercare di comprarti le persone, perché hai sbagliato persona con cui fare deal, ti spiego. Io sono in questo mestiere da 35 anni. Queste sono cose che noi non possiamo tutti, sapere, Rocco. Tutti. No, lui con continua a dire, a chiamare a destra e a sinistra, Malena, non dire questa cosa qui, ti prego. Allora che cazzo però, che cazzo dici? Ma tu sei un diffamatore, ma che cazzo stai dicendo? Chi mai ha chiamato? Che... Questo non è possibile, una mediazione. No, adesso non la posso sapere, non la posso fare. Adesso nei prossimi giorni vedremo. Ciao ragazzi, ciao, ciao Rocco, ti abbraccio. Ciao. Zanzara. Ti dico solo questo, ed è tutta verità, eh? Max, quando lo metti con 10 uomini è a cazzo duro, quando lo metti con 3 super fighe è a cazzo moscio. Adesso a voi pensare com'è Max Felicitas e chi è Max Felicitas. Vorrei dire a questo mio collega anziano di godersi le sue glorie mitiche passate e di andare in pensione, perché carissimo, io sono il futuro. Ciao. D'accordo? D'accordo? Allora, caro Parenzo, dopo questo scontro epico... Cioè, vedo una persona gentile in studio che sembra una ragazza, questo una scontro signorina, epico. Una... Adesso, la persona che è in studio, che si chiama Manuela Carini... Che mi sembra anche, vista dallo schermo di servizio che ho qui a Roma, mi sembra anche gradevole, insomma, una persona adesso, con la faccia pulita, la schiena diritta. Ma vedo che... Ma non è questo il suo ruolo, cioè non è che devi giudicare la persona. Persona, no, sì, insomma, di una certa gradevolezza. Non ha ancora parlato, non ha proferito parola, non ha ancora... Quindi, però, ma una persona che vedo, fa la sales manager, non fa... No, è una persona che fa dal monitor di servizio interno. Vedi, una persona... una valutazione, no, che ho detto ti sei già rapato praticamente. È una cosa incredibile, ti sei già rapato, cioè, ho detto senza... vedo dal capisco che discorso... a quei miserabili, allora te la dico così, rispetto a quei cialtroni miserabili che in genere porti all'interno della Radio 24 a Milano, vedo che questa volta è una persona che non si è spogliata, non è coi capelli è una persona, mi sembra, per bene, ben vestita, allora, e adesso elegante, vedrai che per i tuoi parametri ci ripenserai. Okay. Perché questa persona qua fa, innanzitutto fa la sales manager, che vuol dire, direttore vendite, direttore vendite. Certo, e dunque uno, diciamo, però di che cosa? Lei prima mi ha detto spiritosamente domanda? Di sti cazzi, cioè, sostanzialmente fa direttore vendite di un'azienda che produce soprattutto giochi, sex toys, giusto? Sex toys, e mi ha portato alcuni prodotti. È la marchetta di Cruciani, non è la marchetta, è che è un'azienda all'avanguardia, non c'è regalo. Dimmi, è vero, non mi hai portato nulla in regalo, dimmi. Esatto. Tranne un salame che non c'entra niente, perché lei è di Piacenza, ma non c'entra, anzi ha qualche, diciamo, qualche legame ce l'ha, però un salame vero e proprio, non c'è nessun regalo, anche perché sono prodotti di una certa, di un certo costo. Però la cosa che più mi attraeva ed era, diciamo, il prodotto di punta, che è stato presentato, cilindro, esatto. Quel cilindro, ti prego mettilo in moto, cilindro, ecco. Ragazzi, abbiamo qui un succhiacazzi, ve lo devo dire, cioè uno mancava, può mettere il pisello dentro questo cilindro, e sostanzialmente invece della bocca della donna, caro David, che ti devo dire? Evviva! Il mondo va avanti! Intelligenza col telefonino l'hai messo in moto? Eccetera. Esatto, si può mettere in moto in due modalità, o in automatico, quindi digitale, quindi lo gestisco direttamente dall'apparecchio, oppure tramite un'applicazione. L'applicazione è difficile, uno sta lì e mette l'applicazione mentre stai lì. Così ho le mani libere. Metti con l'applicazione, vai. Mettilo in moto un attimo, vedete? Questo è il rumore. È un frullato, frullatore. Tu metti dentro. Come in questo caso, quando fai la minestra. Quando fai la minestra. Come cambia il rumore? Metti dentro. Minipime, bravo, esatto. Esattamente. Quello ricorda, io voglio dire. Va bene. Questo qua è un succhiapiselli. Abbiamo capito. Evviva, e ognuno fa quello che vuole. Però posso dirti quanto costa sto attrezzo, sta roba? Quanto costa? 150 euro? 189. Ora mi devi spiegare una cosa, però, con tutto il bene che posso volere. Lo ammortizza in un po' di mesi. Con tutto il bene che posso volere a questi attrezzi, a queste cose, all'evoluzione dell'erotismo, va bene tutto, siete grandi, eccetera. Però perché un tizio, un essere umano dovrebbe comprarsi una roba metti dentro il pisello, dentro questo affare? Tra l'altro provalo in diretta, bellissimo, dai, ma provalo in diretta, fa ascolto se lo fai, dai, bellissimo. No, la frontiera, provare tutto, ma non qui, fa provare agli altri. Per le misure dai. Maxi non va bene, però forse è un po' ridotto, però stimola sicuramente, comunque dalle glande a buona parte del pene, anche se non le inserisco tutto. Una misura maxi non c'entra qua dentro. Chi ha una misura maxi magari non è il tuo problema, non ti preoccupare, non ti riguarda. Fermi tutti, non riguarda nessuno della redazione. Fermi tutti, tra poco torniamo. che semplifica la banca. Vi presenta... Vuoi aprire un'attività innovativa e di successo? Bene, sto cercando proprio te. Sono Super Zibaldo e insieme possiamo fare grandi cose. Grazie a me potrai proporre a privati ed aziende tanti servizi, dall'apertura di conti ai finanziamenti, dai pagamenti alle ricariche, dai servizi postali a quelli digitali e tanto altro. Tutto in un unico negozio. Ti offrirò la formazione e ti affiancherò per le abilitazioni richieste. Registrati su zibaldo.it e riceverai un'offerta promo esclusiva per te. Scegli il franchising Zibaldo. Per te, oltre la banca. Cerco maschio alfa. Affettuoso e intelligente e ricco e passionale e bravo a cucinare e anche a stirare. Se vuoi sempre di più, scegli Fiat. Solo a gennaio tutta la gamma è a piccole rate con anticipo zero. Ad esempio Panda da 99 euro al mese per i primi 2 anni e poi da 134 euro al mese. E con l'assicurazione Make Up i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TANSA E45 TAG 939. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiat.it. Quota 100, pensione anticipata, opzione donna, APE sociale. Per muoversi tra le tante novità di legge, la Guida Pensioni 2020 del Sole 24 Ore è l'aiuto che serve per migliaia di lavoratori. Facile da consultare, ricca di informazioni e chiarimenti su un tema complesso e importante. In edicola mercoledì 15 gennaio con il Sole 24 Ore, a 50 centesimi in più. Promo Miau! Questo mese sconti fino al 50% sul Grass porcellanato. Promo Miau! Prima non c'era, ora c'è. Negozi Iperceramica. Prezzi super, qualità iper. Iperceramica.it. Miau! Driver di crescita e sostenibilità del settore. Ricambio generazionale e impatto tecnologico. Questi i temi al centro di Consulenzia 2020, nella sua special edition aperta a tutti i consulenti finanziari. ANASF, insieme alle più importanti società di gestione del risparmio e di intermediazione finanziaria, vi aspetta a Roma dal 4 al 6 febbraio all'Auditorium Parco della Musica. Radio 24 sarà presente a Consulenzia con la diretta del programma Due di Denari. Tutte le info su radio24.it. La Zanzara. Le donne dicono sti uomini che tenne le barbe, no? Sa crede che quella è virilità, ma quale virilità? Là ci vuole la nerchie, non la barba, ci vuole la nerchie, che le barbe, quale virilità? Alla fine la prova della verità è sempre la nerchie. Lo senti questo rumore, Davide? Lo senti? È frullato. No, allora, se io metto dentro questo succhiapiselli, che è un nuovo prodotto di un'azienda che si chiama Lelo, presentato al PT di Firenze qualche giorno fa. Al PT, se io uomo. Metto PT uomo di Firenze, con uno stand. Okay. Se io metto dentro il dito, perché non posso mettere dentro, ovviamente, okay, eccetera, si arriva fino in fondo, che dove dovrebbe arrivare il glande, giusto, Manuela? Sì, va a stimolare il glande e il frenulo. Va bene, è vero. Va a stimolare il glande e il frenulo, così funziona. È vero. C'è una specie di sembra è un rumore, un gorgo infernale, proprio un rumore proprio anche fastidioso. Uno deve mettersi anche i tappi per le orecchie, però, perché la roba. Ma una volta che è pieno fa poco rumore, eh? Signora. Però scusa un attimo, posso dirti una cosa? Te il frenulo non te ne frega niente, la stimolazione del frenulo. Dice a me, caro. Beh, sì, dici, certo. A me. Sì. No, se tu mettessi, No, ma io non voglio mettere niente. Io pratico le cose antiche, come direbbe Salvini. Ci vogliono togliere i nostri antichi rapporti. Mi spenga per favore questa cosa infernale, ci va Manuela. Mi spenga questa cosa. Presidente, anche... Salvini, quando dice ci vogliono portare via il Natale, le nostre tradizioni. E in questo caso le nostre tradizioni sono altre. Io ho altre tradizioni, ma non è che dico che c'è l'invasione degli oggetti. Ma il mondo va avanti, però. Il mondo va benissimo. Ma infatti, ti faccio vedere una cosa. Qui c'è ovviamente questa azienda produce anche il kit. Avete portato? No, questa azienda produce anche un succhio clitoride. Questo, vabbè, questo l'abbiamo già parlato. Questo è una variazione del vibratore, una variazione del vibratore. Beh, in realtà è una cosa completamente nuova che c'è da un paio d'anni, ma va a stimolare. Scusi, ma tu, Manuela, tu le usi, no, queste cose? Certo. I tuoi prodotti le usi? Non tutti, ma sicuramente questo sì, anzi, c'è tanta roba. Ah, tanta roba, il succhio di clitoride. Sì, sì. Cioè l'hai applicato su di te? Certo. Evviva. Tu sei sposata, fidanzata, che sei? Sono separata, divorziata. Beh, mi capisci? Separata, divorziata, queste cose proprio. Sì. Però in realtà non c'entra, perché anche le persone che sono, no, stanno insieme, no, sposate, eccetera, anche conventi le usano. Una variante. Però tu le usi regolarmente, succhi a clitoride le usi regolarmente. Assolutamente. Produce piacere o no? Diciamo, a me sembra una follia, sinceramente, posso dirti, usare per una donna, usare un succhi a clitoride, ma che roba è? Cioè, in realtà va a stimolare l'80% della clitoride, che è clitoride, labbra, grandi labbra, la parte interna, il punto G, quindi in un unico momento vado a stimolare tutto. Ma lo usi con un partner o da sola, soprattutto, no? Dimmi la verità. Si può usare col partner, si può usare, però tu come lo usi? Io devo dire che a volte magari sono un po' lunga e quindi quando sono col partner, dopo magari dopo un po' dopo lui allora... che non ci riesce a farti venire, diciamo, esatto. In realtà, attacchiamo il succhio al clitoride. Esatto. Sarà contento il partner. Evviva. C'è un'altra cosa che voglio fare prima di congedare questa meravigliosa signora, che spero che torni qui da noi, signora, ragazza, in realtà avrà meno anni di me sicuramente. C'è una cosa incredibile. Tu vedi, puoi vedere, sono, ovviamente le persone che sono collegate non possono vedere, c'è una specie di affarino che sembra il vestito di un cameriere, uno smoking. Sai a che cosa serve questo qua? Non ho idea. Per metterselo sul pisello, basta, io su questo vi mando a fare il culo, però, vabbè. Cioè, mettetevi quello che volete, ma io non metto niente. A che cosa serve? Oh mamma mia, serve per essere eleganti in ogni situazione. Ma ho capito, uno non è che c'ha il pisello in tiro così e si mette lo smoking, è uno smoking per il pisello. Non mi dire che l'hai messo un tuo amante, non ci credo. Manuela, dai, non mi è capitato, perché diciamo che eravamo presi in quel momento lì da altro. Cioè, uno non è che sta lì e mette lo smoking, cioè devi pensare, però lo smoking per il pisello io lo trovo eccezionale. Adesso questo me lo faccio regalare, voglio lo smoking per il pisello. Ma tu non ti lavi neanche i capelli e ti metti lo smoking per quell'arnese lì? Ma che senso ha? Dai, andate a quel paese, vado a fare la pipì. Grazie Manuela, ciao, grazie, ciao. Questa è andata a pisciare, che ha fatto? Vedo, gli scappa la pipì alle 20:41, è incredibile. Alle 20:41 gli scappa la pipì. Egidio da Lecce, vai, Egidio. Ok. Dimmi, certo, Egidio, per quanto riguarda intelligenza, Rocco lascia un po' desiderare. Cioè? Si fa dire vecchio, ma gli bastava rispondere, giovane, io lo sono stato, non so se tu sarai vecchio, punto. Ma non ho chiamato per questo, volevo fare una tiratina d'orecchia al nostro carissimo amico, per me è un amico, lo seguo da cassette, carissimo, no Giuseppe, anche tu sei amico, ci terrei dare una tiratina di orecchie a Parenzo, se mi concede. È andato in bagno, che cazzo ti devo dire, improvvisamente è andato in bagno, si è alzato, lo vedo qui dal monitor, ed è andato al cesso, forse, alle 20:41 è andato al cesso. Forse è meglio così, no, non sarò interrotto, tanto poi sentirà la registrazione, sì, il sicuramente problema non esiste. Allora? Perennemente a ostentare all'ennesima potenza la sua eterosessualità, si andrebbe sulla quantistica biviale omo-etero. Cioè, non ho capito. Qui non si parla di... Cioè, lui esalta la sua eterosessualità, è diverso. Lui esalta la sua eterosessualità, dice addirittura di essere orgoglioso della sua eterosessualità. Ma quando mai? Guarda, se non è gay lui, non lo sono neanch'io, e nessuno della provincia di Lecce. Giuseppe, ti posso dire che si può essere gay, addirittura checca, senza essere mai stato con un uomo, senza aver toccato mai una minchia, ma nel cervellino lui lo è, si deve accettare. No, ma adesso come fai a dire questo? È in sua assenza, tra l'altro, è andato in bagno, come fai a dire in sua assenza? Mi risponderà domani, anche in privato. Cioè, secondo te, uno che esalta troppo la sua eterosessualità, come fa? Assolutamente sì. Non lo so, guarda, non posso dirti niente. Io ammetto, per esempio, di avere un'anima. Il vostro padre, sono i peggiori quelli, perché poi. No, non ho capito il padre. A tarda età sono i peggiori, perché a tarda età quelli saranno tutti ulcerosi, non ci piove. Non danno libero, per carità, io non voglio che lui venga a fare coming out e sono gay, no, però. Bene, però. Questa è una misura. Qui si va sulla ma una misura di cosa? Ma una quantistica? Che c'entra la quantistica? Non ho capito bene. C'entra moltissimo. Ma potrei dirlo anche di te io, allora. Potrei dirlo anche di te. Ma io lo sto dicendo. Mi sto esponendo. Perché tu sei omosessuale, non ho capito. Ma guarda, in apertura ho detto, se non è gay lui... Non lo sono, nemmeno io. Ah, io avevo capito, in Italia non ci sono. Chiaro di così. Ah, ho capito. Dunque tu sei gay, tu sei gay. Non è né una colpa, né un pregio, né un difetto. Ma non ho detto niente, ma figurati, ma tu puoi fare quello che ti... Ci mancherebbe. Noi abbiamo avuto modo di conoscerci 6-7 anni fa, nel mio piccolo. Una piccola parentesi, io ti sdoganai quando mi stizzavo, che quando ti chiamavano mamma chi è, che ti davano del tu. Ora sei più umano, mi piace. Scusami, Gidio, tu nella tua omosessualità sei più attivo o passivo? questa cosa, no? Questa cosa mi stizza anche. Questa cosa, 30 anni fa, questa domanda, no, non esisteva. E vabbè, infatti, capisci? Te la faccio adesso. Sei attivo o passivo? Se vado con uno, no? Non è che se io, nello spompino, io sia etero, ciò vuol dire che quel cazzo non mi piace. No, ma questo va bene, io ti sto dicendo... Sì, però ci sono, scusami, calmati, Egidio. Attivo passivo, non esiste questo discorso, è assurdo, è demenziale. Ma non è vero, ma non lo dico, te lo dico, Egidio, perché poi alla fine ci sono sempre delle specializzazioni, ci sono... È sempre un rapporto uomo e mio, sì, però io lo do, io sono più attivo. Ma che cazzo c'entra? Tu sei attivo con quello che non ti piace, ma se trovi uno con una grande minchia, state sicuro che lo prendi in bocca. Ma no, questo d'accordo, però al di là di questo, che questo è vero, però io attivo non è che dico, cioè non è che passivo significa, cioè attivo significa non prenderlo in bocca. Io dico un gay attivo può prenderlo in bocca, ma non lo prende dietro. Ci sono un sacco di gay attivi che lo prendono in bocca, ma non lo prendono. Ma dipende dalle situazioni. Però mi sembra, sì, è vero. Mi sembra di capire, Gino, che tu comunque così hai intuito, sei passivo. Diciamo che lo prendi in culo tranquillamente, senza problemi. Diciamo la verità, diciamola tutta. Non ci allarghiamo molto. Allora, se tanto mi dà tanto, io ti dico, no, con la mia età, 71 anni, vai domandare il voto. Io supero forse Rocco Siffredi. Da che punto realmente io vado, perché... Io ho avuto molto più pompini, moltissimi pompini, no, ho avuto sempre compagni quasi fissi, no? Quasi fissi, sì. Però di fatto, no, se io vado con quarantenne, lui mi spompina, ho 30 anni più di lui. Chiamatemi Ruggero, ti prego, chiamami Ruggero. Mi dico una cosa. Chiamami Ruggero, non ce la faccio. Chiamami Ruggero. Ha molte avventure, solo se è super dotato. Questo... A molte più occasioni, diciamocelo. Diciamolo, che ti devo dire? Diciamolo, solo se è super... Tu è un po' sarcasmo. No, sarcasmo. Ma figurati, ma su io queste... potrei scrivere dei trattati su questa situazione. Dunque, allora, ricapitoliamo la situazione, come direbbe Parenzo, ricapitoliamo la situazione. Tu hai 71 anni. Quelli che dicono, non c'ho figli. Una piccola parentesi, tutti i miei compagni sono sposati con figli. Allora, ricapitoliamo la situazione. Aspetta, ricapitoliamo la situazione. Egidio da Lecce, omosessuale, di, anche se le etichette non valgono un cazzo, ma comunque gay, di 71 anni, giusto? 72, puoi dire. 72, super dotato, mi sembra di capire. Tu l'hai detto prima. Sì. Aspetta, bello. Se uno c'ha 30 centimetri, sì. C'ha 30 centimetri ed è un listino malfatto, quello fa schifo. Se uno c'ha, ma scusa, io no, ho capito. 15 centimetri, sì. Questo è quello. Quello è un lauto cazzo, bisogna vedere, no? Lì ce l'ho tanto, non va a centimetri sta cosa. E a che va? Sono un piccolo estete, la forma. La forma, sì, questa è la forma. La forma, allora, la forma. Qui c'è una persona, tu... Non andiamo ai colli di Modigliani, quella, quel collo così. Però... Io mi sono occupato nella mia vita di arte, di guardia grafica e quella. Sono un piccolo estete. Tu li usi, i sex toys, li usi? Ma sei scemo. Ma che ne so, ma non è che ti ho detto che usi le pistole della mafia, ho detto... Ma questi discorsi li puoi fare con un con quelli che chiede sgallettare di 20 anni, non mi toccare che si truccano, io fisicamente sono maschio, cioè baffi qua là, no. Senti, però non ho capito, tu sei... Allora, io per te... piaccio le donne, aspetta, io sono stato anche con donne, però non dico, sono bisessuale, poi la forma più assurda che mi schizza quando dicono che sono bisessuali. Per me non esiste, o ti piace il cazzo o ti piace la figlia. Questo è vero, Non vanno, assolutamente. Allora, aspetta, fermo un attimo, sono venuto con te. Sì, no, è giusto. Sai, sono venuto con te per un'esperienza la prima volta, ma vaffanculo, poi mi chiedono a me. No, io dico, sono sincero, non è la prima volta, è la terza volta, omettendo tutti quanti gli altri zeri, ma ti vanno a fregare. Giusto. Allora, però per qualche secondo devo dare la parola per un giudizio finale sulla tua figura, su quello che hai detto, naturalmente, a Maurizio Ruggero, che è il nostro super cattolico di riferimento. Maurizio, hai sentito? Sì, ho sentito una valanga di metafore stercorari, di parolacce, roba di questo tipo. No, cioè, che parolacce. Voglio dire, questa persona ha bisogno, secondo te, di confessarsi, ha bisogno di redimersi, altrimenti va all'inferno? Basta solo quel linguaggio sboccato lì. No, il linguaggio sboccato, adesso. Il suo il turpiloquio è un peccato, figuriamoci il resto. No, dopo voglio capire, lui dice di essere omosessuale, di essere anche un po' superdotato, dice di essere in realtà, di praticare la sodomia su larga scala, eccetera, eccetera, eccetera, di essere anche orgoglioso. Di cosa ha bisogno? Di tutto. Ha bisogno tutto di confessarsi per la sodomia, che è uno dei quattro peccati che grida vendetta al cospetto di Dio, quindi figuriamoci. Poi sul turpiloquio non esiste il minimo dubbio, e sul resto lì figurati quanti altri ne avrà commessi. Ti senti, senti un peccatore, Gidio? Voglio sapere chi è questo signore, io. Questo signore si chiama Maurizio Ruggero, associazione non mi ricordo più, che è Sacro Romano Imperio di Verona, Sacro Romano. Il soggetto è Gidio, non importa che sia da peccatore, lo è oggettivamente. Gidio ha detto che sei un peccatore, dovresti confessarti, eccetera, eccetera. Come vuoi rispondere? Ma secondo me questo è un gay represso. Gay represso, l'hanno già detto, gay represso. Ho 72 anni, ne ho visti tutti i colori, sono stato all'estero. Questo secondo me è un gay represso. Chi è lui a giudicare me? Questo l'ha detto il Papa. Ruggero? No, giudica il Padre Eterno. È meglio che si metta a posto prima. Problema. Senti, 10 secondi. Sex toys, per te che cosa sono i sex toys? Beh, dunque, dalla traduzione inglese vuol dire giocare. Sì, no, questo lo sappiamo, ma per te che cosa rappresentano? Il diavolo, Satana, che cosa rappresentano? Rappresenta una delle tante perversioni che si possono oggi adottare in una umanità senza Dio, evidentemente. Figuriamoci se uno fa queste cose qua. Si va con la propria moglie, evidentemente. Dunque, i sex toys, anche tra marito e moglie, non sono consentiti i sex toys. Ma è evidente, cioè, tu devi avere una relazione che è finalizzata alla procreazione. E con questo, ragazzi, devo concludere. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sono pronte per essere munte.